Allora, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Mancano pochi secondi alle 21, siamo in anticipo, ma siamo qui. Questa è la voce di Agostino Spolaore che è assieme al mio fedele compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori, siamo qua. Per fortuna che non mi offuschi la vista. Mi pare giusto, sarebbe una brutta vista la mia rispetto ad altre viste. Allora, buonasera da Blu Radio Vento, dicevo, con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara, per fare una serata dedicata al soul e al blues, ma ne parleremo tra qualche istante. Prima, come sempre, i nostri dati tecnici. Allora, la vostra emittente preferita in questo momento trasmette negli 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Abbiamo un sito, ovviamente, www.bluradioveneto.it, dove potete trovare tutte le notizie inerenti a quello che facciamo qui in radio, ma anche servizi, notizie, informazioni, insomma foto, servizi su quello che accade nella nostra regione, cioè il Veneto. Abbiamo le pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra invece è Blu Radio Veneto trattino Rock Wave, dedicata interamente alla musica rock, gestita dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, che salutiamo, che è in vacanza. Che è in vacanza e tornerà la prossima settimana. E poi abbiamo i nostri numeri telefonici. Allora, quello in studio, se ci volete raggiungere qui, parlare direttamente con noi, quindi è lo 049 875 6423. Mentre per quanto riguarda gli sms, per mandare i saluti o, che ne so, anche richieste, magari stasera fare un po' di jukebox, possibile, può sì, essere. Alla Elis Costello, Daniele, cosa dice? Alla Elis Costello, no? Ve lo ricordo. Troveremo qualche sistema. Esattamente. Sì. Elis mandava le freccette, poi con le freccette ribalzavano sui pezzi da dire, da fare. E poi vedremo, rimbalziamo sui pezzi di Luca e sì, di Lucia. Lasciami finire di Daniele, che dico il numero di telefono. No, Luca, non c'entra. Allora, gli sms, dicevo, è il 346 23 20 033. Credo di aver detto tutto, è giusto il momento di presentare questa coppia di artisti. Sono carissimi amici, prima di tutto. Soprattutto uno, ciao Lucia, sai che io ti voglio un bene dell'anima. Ciao Agostino, ciao a tutti. E poi c'è anche Daniele, ovviamente. Ciao, ah, soprattutto lei. Faremo i conti più tardi, quando uscirai di lì prima o poi. Parlami vicino al microfono. Vieni vicino al microfono, Daniele. Eccomi, sono qua. Allora, a parte gli scherzi, ciao, sono tutti veramente amici. Lucia Caputo e Daniele Bonadei, questo progetto che si chiama So Blue Project. Yes. Sono venuti a presentarcelo qui, ma prima di tutto benvenuto da parte di Blu Radio Veneto. Grazie a voi. E grazie di aver accettato l'invito, ovviamente, insomma. Grazie a voi, ci mancherebbe. Sono venuti da Milano, quindi non ti devo dire anche questo. Ma lui, Daniele, è venuto per lo spritz. Sì, Daniele ama particolarmente i live. Si trova bene qua dentro, vero Daniele? No, amo, sì, come, sì, amo ormai... come versano lo spritz e come fanno la fetta d'arancia, quindi insomma. Sì, lo spritz e i live, siamo assieme. Certo. Allora, chi è? Daniele lo conosciamo, ma ti vuoi ripresentare? Chi sei? Sì. Ho detto Daniele, Lucia. Ah, Daniele. Daniele, sveglia. Daniele, sì, sono pronto. Daniele, è un chitarrista che ha fatto della sua passione il suo lavoro, ha qualche cosa più di 40 anni, fa l'insegnante di chitarra e, possiamo dirlo, il 12 di settembre uscirà il mio primo singolo, che è un brano blues, che sarà poi l'annuncio, il lancio per il mio album, che uscirà più avanti. E finora ho fatto il session man, il turnista, tra virgolette, come si dice, per vari artisti, però ho deciso di dedicarmi a un progetto particolare, che è quello del mio album. Però nel frattempo, nel corso del tempo, ho conosciuto anche Lucia e, trovandoci d'accordo su vari gusti musicali, varie preferenze, abbiamo deciso di mettere in piedi questo progetto. Questo è il suo Blu Project. Questo è il suo Blu Project, che comprende arrangiamenti di vario tipo, di brani che abbiamo preso, non so, ci sono brani del repertorio degli anni 80, addirittura della dance, possiamo dire, certo, piuttosto che brani blues, qualche cosa di country. Anche anni 60, comunque. Qualche cosa degli anni 60. Rivisitati un po'. Cioè, riveduto e corretto dalla vostra sensibilità, praticamente. Sì, esatto, la voce, piuttosto idee sue che riguardano la chitarra, piuttosto che magari suggerimenti o idee balzane che vengono fuori dalle mie mani. Quindi poi cerchiamo di mettere a proposito di idee balzane, gli ascoltatori non lo sanno, però noi abbiamo provato chiaramente prima di cominciare, e quando Daniele incrociava dei pezzi molto famosi li cambiava totalmente e mi dava assolutamente, mi lasciava in pace totale, perché proprio li cambiavi totalmente. È bellezza del tuo modo di suonare, di cambiare totalmente, non dico gli accordi, ma trasformare il pezzo, questo è importante. Beh, l'arrangiare è questo fondamentalmente, non avendo a disposizione basso, batteria, strumenti o altri strumenti vari, l'arpa birmana, che so, i cimbali o qualcosa, o qualcosa del genere, succede che devi, con il tuo strumento, con la chitarra, devi imitare le percussioni, devi imitare il basso, come sentirete fra poco, devi imitare il basso o il contrabbasso, devi tirar fuori altre cose, quindi ti devi ristudiare gli accordi, devi capire un pochino di cose, il tutto per poi devi sempre sostenere con una buona ritmica, certo, il groove, che è quello che ci piace. So Blue vuole il groove, esatto, sicuramente quello ci piace. È fondamentale, ci piace il progetto. E invece Lucia Caputo chi è? Bah, sono una cantante che diciamo che è sbocciata da non tantissimi anni, la mia passione c'è da sempre, comunque da quando avevo 10 anni cantavo i primi pezzi e poi varie collaborazioni, comunque vari gruppi rock, anche ensemble, gospel. E poi ho conosciuto Daniele tramite una nostra amica e niente, ho voluto sperimentare questa nuova situazione musicale con questo duo acustico, quindi diciamo anche mettermi alla prova, perché sì, per me era... Daniele ha incontrato la tua versatilità musicale e allora ha cercato di trovare gli agganci giusti, sì, per anche sviluppare il nostro... Sì, certo, anche i nostri gusti musicali, comunque già dalle prime prove abbiamo... Sì, abbiamo trovato cose in comune, io farei questo pezzo, ma volevo farlo io veramente, quindi finendo, oggi le comiche, mi prende in giro, non è vero, e poi invece siamo sbocciati con questo tipo di suono, particolare, forse nulla di nuovo in realtà, perché ci sono un sacco di formazioni di questo tipo che fanno i loro arrangiamenti, però sicuramente noi abbiamo il nostro suono, ha degli arrangiamenti particolari, io sostengo in un certo modo, lei è molto versatile perché con la voce sa fare, rimanendo diciamo se stessa sa fare tante, certo, cose. Ci ispiriamo a vicenda, cioè, esatto, più o meno. Mi ispiro lui e lui ispira me. Perfetto, più o meno funziona. Quindi il progetto nasce così e si sviluppa così. Esatto. Chi è che sceglie le canzoni da fare? Ma diciamo che 50-50, a volte propongo io dei pezzi, a volte lui dice ma senti, ma c'è questo pezzo qua, me lo conosci? Magari no, non lo conosco, e poi da lì... Ma come viene costruito l'arrangiamento? Come lo fai, Daniele? Come ti approcci alla voce sua, praticamente? Ma fondamentalmente parto dall'ascolto se è un brano che non conosco, ma ci sono brani anche che magari boccio perché dicono non riesco a tirarne fuori nulla perché magari non hanno quel qualcosa, però quando un brano ha quel qualcosa ci lavoro attorno, tiro fuori magari un che può essere riff del basso piuttosto, sì, che, e tiriamo fuori quel tipo di cosa, poi da lì proviamo quello che è la tonalità, perché è sempre molto importante. Vorrei spezzare una lancia a favore dei cantanti e delle cantanti. I cantanti hanno lo strumento dentro la gola, specialmente le cantanti non possono cantare brani rock da maschio, vanno riadattati, risistemati, perché sennò si sgolano e roviniamo la voce, magari anche una voce bellissima, quindi è il caso di lavorarci un pochino più attorno, non dire il brano è così, lo devi cantare così, no. Ho capito. Se una cantante va, questo ha messaggio per tutti i gruppi, perché spessissimo magari sento, magari ho delle amiche cantanti, mi fanno cantare questo brano ma non mi viene, troppo alto, troppo basso, vanno adattati, quindi chiaramente io quello che arrangio poi lo costruisco attorno alla sua voce, per forza, chiaro, perché comunque è lei quello che deve cantare, non posso farla sbagliare. Deve cantare come può arrivare lei praticamente. Sì, bisogna sfruttare il meglio della sua voce, una voce molto calda va sfruttato sempre al meglio per migliore estensione, a costo magari di cambiare la cordatura della chitarra, usare il capotasto che è uno strumento infame per molti chitarristi, invece è uno strumento che risparmia A di ammazzarsi le mani e B permette ancora di sfruttare la chitarra che ha una sua struttura particolare. Tu hai sempre detto che hai un rapporto fondamentale con la chitarra, quando sei venuto qua ne hai parlato ampiamente. Che rapporto, come si crea questo rapporto con lo strumento? Si crea tenendoselo tutti i giorni addosso, facendoci lezione, vivendo anche cose che non c'entrano magari nulla con la chitarra, vivendo fortemente, almeno per quello che riguarda me, vivendo fortemente tutte le esperienze della vita. Poi vabbè, io amo il blues è lo specchio magari anche dei guai, delle cose vissute, come dico spesso, vissute fino all'osso, fino al sangue, però tutte quelle cose, o anche un film che vedi, finiscono dentro le tue mani e prima o poi filtrano, da qualche parte filtrano, uno ti ascolta e dice beh, o perlomeno speriamo che succeda così nel mio caso, insomma. Quindi una garanzia, suonare in continuazione. Sì, devi. Sempre, continuamente. Beh sai, Vladimir Horowitz diceva una cosa, se non suoni un giorno te ne accorgi solo tu, se non suoni due giorni se ne accorgono anche gli altri. Giusto, è una cosa giustissima. Bisogna suonare, suonare, anche magari 5 minuti facendo finta di spolverare la chitarra, ma bisogna metterci bisogna suonare tutti i giorni. E bisogna suonare proprio, mi sa che dovremo suonare. Dobbiamo cominciare. Allora, noi abbiamo avuto la fortuna di ascoltarli prima durante le prove e vi garantisco che sono uno splendore. La voce tua, poi Lucia, è meravigliosa. Grazie. È giusto, è arrivato il momento di farla sentire allora. Okay. Cosa ci fate ascoltare? Ma allora, un pezzo degli anni 60 di Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, è un pezzo vecchissimo che forse alcuni ricordano per il ritornello abbastanza... Celentano aveva fatto una versione in una, non so se i miei americani 1 o 2, comunque c'è una versione, forse nell'uno, c'era una versione... Abbiamo voluto rivisitare questo pezzo grazie anche agli arrangiamenti di Daniele, che è stato lui proprio a propormi questo pezzo. Io lo conoscevo ma non benissimo, quindi... Mi ha fatto questa proposta. L'hai approfondito allora praticamente. Proviamo, perché mi piaceva, era molto, molto divertente, quindi abbiamo provato. Vediamo che succede. Ve lo facciamo sentire. Ok. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been messing where your children have been messing, and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Keep lying when you hunt beef truth thing, and you keep losing when you hunt my bet. You keep saying when your heart be changing, now what's right is right, but you ain't be right yet. These boots are made for walking, and that's just what they do. One of these easy boots I'm gonna walk all over you. Keep playing what you should be playing. You keep thinking that you'll never get burned. I just found me brand new box of matches, yeah. And what I know, you ain't time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they do. One of these easy boots are gonna walk all over you. Tanto con tanto di sviolinata finale, Daniele. E il pezzo, grazie, scusate che intanto mi riaccordo. No, no, è bello, devi accordarti dal vivo, che la gente deve vedere e sentire che ti accordi dal vivo. È bello così, proprio fa parte del live. Certo. Proprio, e il pezzo era famoso per la scala, cosiddetta scala. Fatta dal contrabbasso. Esattamente. È proprio quello, è famoso per quello. Com'era la finale? Beh, lui l'ha rallentata volutamente, Daniele. Al massimo della lentezza, e poi ha cambiato. È così. Il contrabbasso, cioè, non aveva bisogno di fare certe cose. Perfetto. Sì, il contrabbasso non ha i tasti, quindi puoi scivolare. Io, purtroppo, avendo i tasti, devo arrangiarmi. Però io lo ricordavo benissimo nella versione di Celentano. Chiaramente, la versione di Celentano al maschile. La Lucia l'ha fatta la versione giustamente a Filmini. Nancy era una ragazza di un certo portamento anche all'epoca. Sì, molto carina. Molto carina. E la versione tua è sempre diversa, è giusto che sia così. L'hai cambiata, hai lasciato la scala, perché quella è famosa, però il resto l'hai colorato. La struttura, ci vuole qualcosa. L'hai strutturato in modo differente ed è giusto che sia così. Quanto ci hai pensato, ci hai provato a fare un pezzo simile? Ma dipende, è un arrangiamento magari... So che sembra da pazzi, ma me lo sogno di notte, mi pare giusto, piuttosto che no. Magari salta fuori, ci sono altri brani, magari abbiamo provato insieme, ma così non funziona. Ci sarà un brano che più tardi faremo, che all'inizio abbiamo tentato di farlo simile, poi invece è venuta fuori una roba completamente diversa da pazzi, però alla fine è funzionato così, quindi magari provando e riprovando di Galileo, insomma. Certo. Abbiamo cominciato piombando negli anni 60, è una cosa molto positiva, e poi piomberemo in altri luoghi, in altri momenti, in altre emozioni, tante emozioni, fino ad oltre, a che ora torniamo stasera? Quando vogliamo, non sono problemi di sorta. Allora, io vi ricordo, che non ho detto prima, che se qualcuno vuol vedere questi amici, questo duo, questo So Blue Project, questi Lucia e Daniele, può vederli tranquillamente tramite lo streaming video della nostra emittente, digitando meglio ancora su Google o sul vostro motore di ricerca che avete, diretta Rockwave tutto attaccato .tk, accederete direttamente alle nostre telecamere e potete vedere questi artisti appunto mentre cantano, suonano e vi fanno compagnia con la loro splendida musica. Un'altra cosa che vi voglio sottolineare in questa serata, saranno tutte ed esclusivamente tutte, ripeto, canzoni suonate dal vivo. Non c'è neanche una canzone estratta da un CD o registrato, quindi loro non avranno modo di rilassarsi, né tantomeno di riposarsi, quindi sarà tutto esclusivamente diretta, sarà una bellissima diretta. Ma Daniele ha sempre detto che bisogna continuare a sempre, suonare, quindi suonare sempre in continuazione. Grazie. Perché suonare si prova, si trova determinati stimoli, si cerca, costruiscono determinati progetti come i vostri, e quello è importante. Sì, quello bisogna sempre andare avanti. Io provo di innescare il microfono. No, va bene così, devi parlare vicino. Bisogna sempre andare avanti, mettersi lì. È chiaro, è un investimento, perché devi fare un sacco di prove, devi metterti lì, devi fare un venerdì o un giovedì o un sabato, quando provi, quando capita, che esci e dici bah, sono stanco, malissimo, esci la volta dopo che dici oh, benissimo, questo funziona. Esatto. A volte c'è il malissimo, fortunatamente quasi mai. Giusto, Lu? No, c'è qualcuno che c'è la cuffia un po' alta, forse, che vi fischia. Adesso la abbassiamo un po', sarò io che ho la cuffia alta. Abbassiamo un pelo, questo è un sistema che usavano spesso e volentieri le grandi band degli anni 60 a suonare sempre in continuazione. Beh, tu lo sai meglio di me. Sì. Ricordiamo i magici Grateful Dead, 7 ore continui di concerti, non finivano mai. Era un happening, un free continuo di musica. E musica con tutti i collegamenti. Lasciamo stare i collegamenti un po' fuori. Esatto. Andiamo solo di musica. Era un happening continuo. Era quel modo di suonare aperto, senza nessun limite. Sì, è quello che succede anche noi, perché quando suoniamo dal vivo difficilmente stiamo nella formula dell'ora e mezza. Mm. Andiamo avanti, finché non ci chiedono di smettere. Esatto, o ci sparano, ci abbattono, oppure un conto magari il proprietario del locale che ti dice no, qui facciamo un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, ma se ci lasciano libertà è difficile che smettiamo, certo, presto, perché ci piace. Poi saltano fuori magari Le richieste, allora proviamo, ce l'hai nel magico librone dei testi, ce l'hai, la sai, sì, vabbè, dai, proviamo, proviamo, e ci si butta a pesce come al solito. Daniele, succede che improvvisi anche nel pezzo che canti dal vivo, che suoni dal vivo, anche se l'hai preparato in una certa maniera, poi lo leggermente lo sconvolgi, sì. Sì, succede. Infatti, succede lei guarda male, dice: Madonna, adesso cosa combinerà? Io parlavo per lei. Parlavo per lei. Succede quasi sempre, succede anche. Io conosco Daniele, per quello ho fatto sta domanda. Succede anche a me, comunque, perché comunque i finali non sono mai uguali. Cambiamo, ma anche la struttura, cioè dipende come. Questo fa parte del feeling, mi pare che sia. Sì, ci si segue, c'è il giro in più di chitarra, piuttosto che lei magari decide che entra di nuovo con un altro cantato, io seguo. Benissimo. Ed è giusto così, secondo me, perché la musica in fondo non deve essere... Okay. Il disco è il disco, fai un disco, però poi il disco può essere un esperimento, può essere un gioco. Dal vivo, secondo me, è giusto giocare tutte le volte. Non essendo legati al fatto di aver fatto quella canzone di successo che aveva fatta così per via dello stile, della produzione, eccetera, eccetera, noi prendiamo, riprendiamo, anche cominciando a lavorare su brani nostri, lo schema sarà sempre lo stesso comunque. Certo, certo. Quindi libertà assoluta, quasi. Questa è la garanzia. Fate molte serate voi? Sì. Beh, stiamo facendo prove poi in questo periodo, perché vabbè, poi i locali stanno facendo la programmazione, però ne abbiamo già fatte parecchie in giro e vogliamo andare avanti così da settembre. Considerando il fatto che comunque proviamo da marzo, non è tanto tempo che siamo... Non è tanto tempo da marzo, che suoniamo, quindi, però abbiamo già il repertorio. Un bel repertorio, 50, corposo, esattamente. Sì, 50 pezzi. Stiamo preparando la canzone napoletana, piuttosto che i brani jazz. Insomma. Sì, anche vari repertori, dal jazz... Anche la canzone appunto napoletana, che a me piace moltissimo. E quindi cosa, se sono indiscreto, cosa avete selezionato della musica napoletana? Ma i classici di una volta, comunque da Reginella, Sole Mio, comunque tutti pezzi molto molto vecchi che comunque sono... Ma la state già facendo questa? Sì. Fammi 30 secondi di Sole Mio, ce la fai? A cappella, dai. No, dai. A cappella, dai. No, mi emoziono. Agostino. Dopo te la farò sentire magari in privato. Privatamente. Io volevo sentire in diretta, la facevamo sentire a tutti, ma ce la provi, dai. La prossima volta, dai. Vabbè, dai. Non insisto. Bene, potremmo far sentire il prossimo brano magari. Sì, certo. Lo presenti tu? Lo presento io. È un brano che, vabbè, se qualcuno si vuole sedere vicino al molo. Visto che siamo in periodo estivo, se qualcuno vuole sedersi vicino al molo per riflettere, può ascoltare questo brano. Ok. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and I watch her roll away again. Yeah, sitting on the dock of the bay, watching the time roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed from the Frisco Bay, 'cause there's nothing, nothing to lead for, and look, nothing's gonna come my way. Hey. Sitting on the dock of the bay, watching the time roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything's gonna remain the same. I can do what 10 people tell me to do, so I guess I remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Yeah, sitting on the dock of the bay, watching time run away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Cosa posso dire di questo pezzo? Cosa posso dire? Una versione quasi confidenziale alla fine, ma bella, molto bella. Grazie. Sei stata brava, perché non è mica un pezzo facile, anche se sembra facile. Sì. Un pezzo è un classico, bisogna dirlo. Otis era ci sempre sono, Otis, sì, c'è sì, poco sì, da ci fare. Ci sono state Otis migliaia di interpretazioni. Esattamente, però l'ha scritto lui e c'è poco da fare. Sì, ed è un'altra cosa quando l'ha scritto lui. Anni 60 pezzo. Anche questo. Anni mi 60 pare. Anche questo. Però che pezzo, ragazzi. E poi Daniele lo cambia un'altra volta. Lo cambia! Perché l'ha fatto scivolare alla fine. Lentamente l'ha fatto scivolare. Ma anche qui il solito discorso, c'è il basso. Ti ricordi, inizia con. Sì, certo. E questa cosa qua la devi rifare in qualche modo. Certo. Devi trovare il sistema, poi sono da solo. Può venire malissimo. No, ma è venuta benissimo. Non è malissimo, è venuta benissimo. Poi Lucia l'ha corollata con la sua voce, l'ha dondolata, possiamo dire. Benissimo, perfetto. Otis sarà sicuramente contento. Nell'alto quando la sentirà. Speriamo. Allora, come vi porto già i saluti. Sono arrivati già i primi messaggi. Oh. Allora, vi sto ascoltando, bravissimi. Un abbraccio, indovina Daniele chi è? Quella che ti ha già accompagnato la penultima volta che sei venuta qua, non questa volta. L'altra. Sara? Sara Sol. Oh. Ciao Sara. Ciao Sara. Ciao. Allora, poi c'è un altro che dice, brava Lucy, però sposta il tuo bel faccino dal microfono che non ti si vede. Cinzia e Katia. Ciao Cinzia, ciao Katia, sono due mie colleghe, una è una mia collega, l'altra è un'altra amica. La prossima volta portale, che così facciamo. magari. Vabbè, dai. Agostino, se è un modo elegante per dirmi di stare a casa, basta dirlo, non c'è problema. Ma io te l'avevo già detto, no? Diciamo che Agostino ti fa per me. Sì, esatto. Maurizio, insomma. Per te. Quindi. Va bene, meno male che almeno c'è Maurizio, guarda. Mamma mia, guarda. Però consentitemi di dire un grazie, di dare un grazie anche a Chiara, che è venuta a trovarmi questa sera, che è una carissima amica, un'amica di Cissy Rogers, che è un cantante che ha fatto parte dei Summertime, quindi in un concerto l'8 dicembre, e che ci sta cambiando le webcam, quindi è lei che gestisce le webcam. Ah, bene. È un'altra Chiara, allora. È un'altra Chiara. Bene. Che non è quella ufficiale nostra. Come ma siamo? Sei bella. Sì, bene. Perfetto. Perfetto. Bene, abbiamo toccato un simbolo della musica. Possiamo dire solo, Daniele, cosa pensi? Sì. Anche se Otis non aveva confini, praticamente era lui. E sono quei personaggi che dici: ma Sara Sol sarà. Con tutto il rispetto per Sara Sol, non volevo fare giochi di parole. Scusa, Sara, scusa, perdonami. Però, Sol, Black, però ci sono alcuni personaggi che non puoi. No, non puoi definire, si possono catalogare assolutamente. Devono essere lasciati lì solo con il loro nome, è rimasto con la loro eredità. Esatto, è rimasto un mito. Purtroppo, una fine tragica, ma è rimasto un mito. C'è poco da fare. E i miti si fanno anche così, purtroppo. Purtroppo, però a volte i miti si possono anche predicare. Con il prossimo brano potremmo predicarli quasi. Certo. Sì. Potremmo predicare. Allora predichiamo. Ok. Cosa predicate? Predichiamo un brano che facciamo tipo Sarabanda, dovete indovinarlo. Ok. Lo facciamo dopo allora il titolo. Ok. Preacher's sound when his daddy with these would come along. When they got around, stop the talking, 'cause the Billy would take me walking through the backyard. We go walking, daddy looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. yes it was. Being good is always easy, no matter how hard I try. When I started sweet talking to me, come and tell him everything is alright. Kiss and tell him everything is alright. Can I get a game tonight? The only one who could ever reach me, so son of a preacher man. The only boy who could ever teach me, so son of a preacher man. Yes he was, he was. Yes he was. How will I remember the look that was in his eyes? Kissing, telling me, put me on slide, taking time to make time, telling me it was all mine. Learning from each other's knowing, look to see how much we're growing. The only one who can never teach me, son of a preacher man. The only one who can never teach me, son of a preacher man. Yes, it was, it was. Ooh, yes, it was. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yeah. The only one who can never teach me, son of a preacher man. The only one who can never teach me, son of a preacher man. Yes, it was. It was. Ooh, yes, it was. Yes it was. Yes it was. The only one who could never reach me. Hai sentito caro? Splendido, questo è un pezzo famoso sempre negli anni 60. 60. C'è poco da fare. Arriviamo agli anni. Sì, 70, leggermente. 80. Citiamo chi era chi lo eseguiva questo pezzo, dai. Sì, allora ci sono, anche qui ci sono state varie versioni. Comunque il pezzo è di Dusty Springfield. Sì, la più famosa è stata la versione sua praticamente. Sì, sì. Esattamente. Poi vabbè c'è stata Joe Stone. Sì. John Osborne. Esattamente. Però lei l'ha lanciato, è stata lei che sì. È diventata famosa per il ritornello, questa grinta che aveva. Anche tu dai molta grinta a questo pezzo. Grazie. È una, decisamente con molta forza. E Daniele ha gestito la cosa in maniera molto blues, secondo me. Assolutamente blues questo pezzo. Sai, la mano è quella. La mano è quella. Però la mano è sempre quella. Volutamente, corposamente, pesante nel senso positivo del termine. Sì, poi a me piace questo tipo di... di... Esattamente. Ci vuole sempre. Ci vuole sempre. Ci piace. Ci garba. Io vi ricordo che state ascoltando Blu Radio Veneto, perché mi sembra giusto dirlo. Siamo in diretta qui, sono le 21.32 di questo giovedì 11 agosto 2011. Questi due artisti che ho fortemente voluto qui, perché sapevo la loro bravura, poi insomma dedicare una serata al soul e al blues mi sembrava giusto dopo il rock del lunedì. Quest'oggi ci facciamo soul e blues, tutto dal vivo, rigorosamente dal vivo. Vi ricordo i nostri numeri telefonici se volete mandare sms, quindi è il 346 23 20 033. Invece per quanto riguarda il numero per chiamare qui in studio è lo 049 875 6423. Abbiamo Lucia Caputo e Daniele Bonadei con questo So Blue Project. Allora, da chi parlo, da chi nasce la canzone? Cioè uno dice adesso faccio ascoltare una canzone, cioè voglio proporre una canzone, facciamo una canzone insieme. Chi è che è l'ispiratore? Cioè partite da un genere, da un cantante ben preciso? No, non c'è un cantante cioè, preciso. Cioè magari ascolti uno, ti piace, dici sì, Daniele? Sì, comunque sempre sulla musica, cioè siamo sempre sul genere blues, soul, non è... country... sempre su questo genere comunque. O io o lui comunque... proponiamo un pezzo o qualsiasi. Sì, ci arriva, basta che abbia quel qualcosa. Poi io. Diciamo che avendo gli stessi gusti musicali, cioè ci viene facile, no? Quindi sì, poi voi lo mettete nel play, diciamo, lo ascoltate, vi piace. Sì, oppure... beh, poi sai, con YouTube ormai sì, certo, posta elettronica, lei di solito poi il grosso problema è che magari io le mando un brano e dico ascolta questo brano, poi lei mi risponde con 50 brani. Allora per le prossime prove facciamo anche queste, una scaletta 10 completa. 10 brani, poi fortunatamente, come si dice, la notte è lunga e quindi io mi metto sotto e preparo. Certo. E va bene, insomma. Di solito ne sbaglio sempre solo uno. Ah, beh, su 10 ne faccio fuori uno, vabbè, pazienza. È bello che tu abbia scelto Dusty Springfield, che è una... che era musicista, un artista molto conosciuta negli anni 60, ma un po' leggermente dimenticata dalle nostre parti adesso. Non è così, non è giusto, perché lei era una che tanto ha venduto un sacco di dischi in America, famosissima anche in Inghilterra. In Italia un po' meno, però aveva il suo pubblico anche in Italia. Poi è stata leggermente dimenticata, ed è giusto rispolverarla, nel senso positivo del termine. Un artista di grande portata anche musicale, sul palco si muoveva molto presenza scenica non da poco. Anche Lucia, sai, molto lo so ma io non l'ho vista lei, infatti, ancora. Durante le prove ho detto senti, questo microfono tiene, perché io mi muovo durante mentre canto, infatti, quindi aveva il dubbio se cantare da seduta o in piedi, anche meglio seduta, così cerco di stare un pochino più fermo. L'ultimo brano lo facciamo in piedi, come un live, il finale del live, esatto, il finale del live lo facciamo in piedi, allora, sicuramente. E adesso da seduti cosa ci fate? Beh, è un classico questo qua. Leggo praticamente la scaletta. La scaletta è un classico, classico. Beh, è un classico che piace sempre. Besame mucho. Diciamo che ci siamo, io e Daniele ci siamo conosciuti con questo pezzo. Allora, diciamo... scusate, devo cambiare chitarra allora. Ah, sì. Perdonatemi. Devo fare mentre tu spieghi. Spiega un po' a lungo, che intanto io... No, vabbè, diciamo che ci siamo conosciuti con questo pezzo. Io e lui abbiamo un'amica in comune, che è Vassi Montacchi. Che tu ciao, conosci, Eva. Che voi conoscete. Ciao, benissimo. Eva. Sei una ciao, carissima Eva. Amica. E niente, abbiamo fatto improvvisato questa cosa a casa di Eva. C'era lui, c'ero io e un altro cantante, Federico Modi, che lo saluto, ne approfitto. E niente, abbiamo fatto questa jam a casa sua e lui ha cominciato a suonare questo pezzo. Io, vabbè, a me piace tantissimo, quindi piaceva già tantissimo. A me piaceva tantissimo. E il problema è che, vabbè, ho sentito cantare e ho detto, oh signore, mi sa che dobbiamo combinare qualcosa di musicale, e quindi perché ho sentito questa voce ho detto adesso hai utilizzato una chitarra proprio di rock and roll, vero, puro sempre. Sì, però molto, guarda, rock and roll, è una visivamente molto visivamente, da rock and roll, però è molto versatile, fa... sì sono d'accordo con te. Beh, bello, perché stai accordando dal vivo, la gente ti sta vedendo che stai accordando, come è una trasmissione live, ragazzi, questa qua. Come fosse su un palco, si accorda, è bello così. Allora posso farmi notare anche l'ultimo giocattolo acquistato, ormai non è una cosa, non è una grossa novità, è un accordatore che con un sensore prende le note attaccandosi alla paletta. Bellissimo. Io dico sempre, posso guardare anche la partita nel frattempo. Infatti me l'ha detto anche prima. Detto. Una volta si usavano altri tipi di accordatore, ti ricordi, Daniele? Sì, ma io ne ho 4-5 a casa, però questo qui tra l'altro è sopravvissuto a un live. Devi parlare vicino al microfono. Scusa, stavo alzando il volo. È sopravvissuto a un live dove sotto un diluvio, un live che ho fatto con Sara, tra l'altro, sotto un diluvio allucinante, che ho avuto tutta la mia strumentazione lavata, è sopravvissuto perfettamente, anche il resto sopravvissuto. Se non mi sono buttato dal balcone nel frattempo, vuol dire che è sopravvissuto. E ragazzi, funziona bene, quindi è il nuovo accordatore ufficiale. Bene, bene, bene, molto positivo. Siamo pronti? Sì. Ok. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Sì, fino all'ultimo secondo, perché fino all'ultimo secondo. Posso chiederti una cosa, Daniele? Sì. Perché hai cambiato la chitarra? Che suono ti dà questa chitarra rispetto alla precedente? È un po' più scura. È un po' più scura. È un po' più scura, e sia, quindi sia, dava bene per questo pezzo, allora, sì, praticamente. Ma spesso in alcune serate uso solo questa, perché sento di dover usare solo questa per... perché ha più bassi, perché è più blues, poi dipende, altre serate le faccio solo con quello. Certo. È una bossa nova rallentata, molto rallentata, hai consentito a Lucia di andare oltre, di andare su con la voce e poi di ritornare alla voce normale. Sì, ma io in realtà lo sento, io sono appassionato di tango, lo sento quasi come un tango. Come un tango, meglio ancora che la bossa nova, sì, come un tango. È quasi un tango. Poi vabbè, questo è il brano, sì. Io ho sentito lei la prima volta cantare con questo brano e non ho più avuto parole, quindi... Andava bene per lei, perfettamente. Sì, sì, questo è sicuramente suo. Grazie, decisamente. Tutto merito anche tuo, quindi... Dal vivo con altri musicisti come lo fate o lo fate così? No, abbiamo... per il momento siamo solo in duo, cioè, poi vabbè... Due. L'idea di portare altra gente, è possibile? Sì, sì, ci sarà sì, sicuramente... magari anche una fisarmonica... fisarmonica piuttosto che, oddio, vabbè, sono imbranato col no, microfono, no, no, sei imbranato. Cosa combino? Fisarmonica, perché no, vabbè, batteria o percussioni sicuramente, poi c'è sempre l'idea di formare anche un quartetto dove si aggiungano o il contrabbasso, il basso e la batteria sicuramente, certo, per lavorare magari su qualche cosa di un po' più di sostenuto. Però adesso che andate in questa formazione, così lo fate praticamente. Esattamente, questo sì. Benissimo. Poi vabbè, ci saranno anche brani che sentirete dove anche in due di casino ne facciamo parecchio. Bene, mi pare giusto che sia così. Questo, a proposito di in due, scusa se ti interrompo, vai. Maurizio, io so, Daniele, posso svelare un segreto, vero? Io ti ho fatto mettere in contatto con un artista che ha fatto un disco, l'ho invitato a venire qui a Padova e cercava un chitarrista ed è in contatto con te, giusto? Sì, ci siamo sentiti. La Patrizia. Esatto. Siccome mi ha detto che stasera ascoltava, allora ti porto i suoi saluti. Grazie. Ciao Patrizia. Patrizia. Patrizia. Ciao. Ciao Patrizia. Sento un ritorno stranissimo in cuffia, ma ce la faremo prima o poi. Ce la possiamo fare. Ho il ritorno, ho la cuffia che va in Larsen, sembra Jimi Hendrix in radio in acustico, vedi un po' tu, quindi. Siamo a posto, direi. Tutto. Allora Patrizia, grazie per aver accettato questa sorpresa, Daniele. Grazie a voi. Ricordiamo che Patrizia Cirulli, veramente, non stavo scherzando, è una cantante, ha fatto un disco bellissimo che io già ho ascoltato e verrà a presentarcelo qui assieme a Daniele, perché aveva bisogno di un grande bravo chitarrista, ho fatto il tuo nome. E purtroppo hanno trovato solo me, quindi arrivo io. No, perché gli altri sono andati tutti in ferie. Gli altri erano in ferie. Perché eri il migliore. Grazie. Grazie, diciamo Patrizia. Le cose come stanno. Grazie, grazie. Patrizia, come sta andando il tuo disco? Bene, bene, è bello appunto scrivere canzoni, come tu sai, le canzoni che hai ascoltato, che fanno parte del disco, sono tutte scritte da me, musiche, testi, è la mia passione, è una cosa che faccio da tanto tempo, mi piace molto e la cosa bella è poi poterla sempre condividere, certo, questa passione con gli altri. Sono contenta del tuo invito che avverrà prossimamente. Certo, e ti faccio in bocca al lupo anche per il concorso Artisti per New York. Ah, crepi, bene. Bene. Chissà che ti vada bene. Mi parli un attimino, che rubiamo qualche secondo a loro, sì, di quella canzone che hai fatto con la poesia, che io la adoro. Sì, sì, infatti, che poi verrà dedicata a te perché è una promessa. Ma è questa cosa molto bella che è nata così, questa poesia di Salvatore Quasimodo, che ovviamente sappiamo un grande poeta siciliano, e questa canzone che poi è nata, praticamente ho preso questa poesia che si chiama Forse il cuore, è una poesia che tratta del tema della guerra, è stata scritta negli anni 40 e l'ho musicata, quindi è diventata una canzone a tutti gli effetti, e appunto poi anche il figlio del poeta Alessandro mi ha dato il permesso di poter fare questo lavoro. L'arrangiamento è stato curato da Lele Battista ed è un lavoro a cui tengo molto, e anche questa è una cosa che mi piace molto poter condividere, perché a parte il messaggio che c'è già nella poesia, è già strepitoso di per sé, perché c'è tutto il discorso legato alla brutalità della guerra, ma poi lascia la speranza e l'apertura sul finale. Certo. E quindi sarò felice di poterla condividere anche con voi e con Daniele e tutti quanti. Che accordi hai preso con Daniele? Ce li sveli? Abbiamo preso solo accordi maggiori, per il momento. Per i minori ci risentiamo dopo le vacanze. Qualche minore anche ci va, però. Perché... anche un diminuito, però vediamo, con moderazione, perché non vogliamo esagerare per il momento. Ok, non mettiamole troppi. Il giullare si fa sentire sempre. Quindi... Comunque, Daniele, mi raccomando, Daniele, trattami bene Patrizia, perché ci tengo molto. Guarda, sarò di una delicatezza, guarda, metterò delle corde sottilissime, guarda, sarò veramente bravissimo. Grande Daniele. Va bene, Patrizia, grazie di aver accettato questo invito. Grazie a voi. Volevo regalare 3 secondi a Daniele della tua simpatia e ti aspettiamo qui a Blu Radio Veneto, ovviamente, a presentare la tua musica, insomma. Ok, grazie, un saluto a tutti voi, grazie mille. Ciao, ciao Patrizia, ciao. Ciao. Ciao, ciao, a presto, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, Daniele, che mi dici? Te l'aspettavi? No, sinceramente no. Mi aspettavo qualche telefonata malandrina, sinceramente, però sai, conoscendoti non si sa mai dove vai a parare, quindi. Eppure hai visto? Io sapevo di questa cosa. Ho detto, sarò riuscito a contattare la mia maestra delle elementari, invece... ci avevo provato quella volta, ti ricordi? Va bene, abbiamo parlato un po', ci ascoltiamo un po' di musica allora adesso. Sì, ho visto la scaletta, ho visto Lucia che mi ha mostrato il pezzo, il brano. E questa è un'artista tosta, è sempre stata tosta, è riuscita a superare determinate cose alla grande, è stata rilanciata da Mark Knopfler con un disco meraviglioso e poi è andata avanti e ancora adesso è ancora tosta. È un mito. È un mito, ok. Con un brano di Robert Palmer. Esatto, con un brano di Robert Palmer, un altro musicista di grande levatura che purtroppo se n'è andato un po' di tempo. Ok, bene. Blu Radio Sera. The lights are on, but you know on your mind is not your own. Your body sweats, your body shakes. Another kiss is what it takes. You can't eat, you can't sleep. There's no doubt you're in a deep. You throw this tight, you can't breathe. Another kiss is all you need. Light to the thing that you're immune to the stuff. Oh yeah. Closer to the thrill, you know. All I ever face is you're addicted to love. You see the sign, but you can read. You're running at a different speed. Your heart beats a double time. Another kiss and you'll be mine. One track mind, you can be saved. And I am love is all you crave. And if the sun left you, you don't mind. But if you do, you like to the thing that you're immune to the stuff. Oh yeah. It's closer to the through, you see. Gonna have your faces, you're addicted to love. Mine has all your faces, you're addicted to love. Mine has all your faces, you're addicted to love. Mine has all your faces, you're addicted to love. Mine has all your faces, you're addicted to love. Mine has all your faces, you're addicted to love. Mine has all your faces, you're addicted to love. Mine has all your faces, you're addicted to love. Mine has all your faces, you're addicted to love. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. You're immune to the stuff. Oh yeah. Closer to the thrill, you see. Gonna have a faces. You're addicted to love. Mine has all your faces. You're addicted to love. Mine has all your faces. You're addicted to love. Mine has all your faces. You're addicted to love. Mine has all your faces. You're addicted to love. Oh, oh, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Possiamo dirlo. Questo pezzo di Tina o Tina, come diciamo all'italiano? Tina Turner. Non mi suona molto ripreso, bene. Ripreso, arrangiato da Daniele e con la voce di Lucia. Perfetto, perfetto. Decisamente con grande grinta, ti ha dato molta grinta, molto anche è faticoso un pezzo simile. Sì, abbastanza faticoso. Sudore. Però ti sei sciolta adesso, prima eri più tesa, di la verità. Sono sciolta, sì, ci voleva questo pezzo. Allora. No, anche prima della trasmissione eri potesa. Sì, beh, certo, per me è la prima esperienza. Non ha voluto bere lo spritz, cosa facciamo? Quello bello. Mannaggia. La prima volta che vai in una emittente? Sì, radiofonica sì. Ma sei stata in televisione? Sì, sì, in televisione sì, negli studi di Cologno Monzese. Canale 5. Canale 5, sì, con al festival Milano Gospel Festival. Con Eva. Con Eva Simontacchi, con il nostro gruppo Gospel. Eva Simontacchi Vocal Ensemble, sì. Ma un'altra dimensione della televisione è la radio, vero? Sì, Lucia? Sì, è tutto un po' strano. È tutto veloce oppure no in televisione? Diciamo che è molto veloce, molto veloce. Avevamo poco tempo per provare i pezzi, quindi diciamo che è molto particolare, però nello stesso tempo bisogna essere... cioè, sì, subito pronti. Subito veloci, pronti per registrare, perché era una trasmissione registrata, quindi... E, però diciamo che è stata una bellissima esperienza. Certo, certamente, però live in una radio è diverso. È diverso, sì, è diverso. Sì, sì, sì. C'è più predisposizione, io cerco di difendere forse, sempre la radio. E forse anche un po' di intimità, sì, anche, vero? Sì. È più intima la radio. Se non ci fossero state le webcam, ancora meglio. Ma tu fai finta. Spegniamo. E quindi poi ci fosse la televisione adesso. Scherzo, no. No, non togliete, se no si vede la maglietta nuova che ho comprato apposta per venire. È arrivato l'altro messaggio, semplicemente dice complimenti, bravissimi, si firma Lu. Lu. Lu. Ah sì, e una mia grandissima amica è la Luciana, la saluto. Ciao Luciana. Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie. Ricordiamo il numero telefonico, se sì, volete vai. Mandare gli sms, allora è il 346 23 20 033, questo per mandare, se volete salutare ovviamente, ma anche per fare qualche domanda, se volete chiedere qualcosa a questo duo, questo So Blue Project, e questa Lucia Caputo e Daniele Bonadei. Questa è Blue Radio Vento, la vostra emittente preferita in questo momento, come dico sempre io, perché la state ascoltando. Ve le ricordo anche le frequenze 88.700 e 94.600 MHz, in modulazione ovviamente. Abbiamo lo streaming audio e lo streaming video, potete sia sentire che anche vedere questi artisti rigorosamente dal vivo, ve lo posso assicurare. Quindi anche se sentite qualche buco ogni tanto di cambio di chitarra, di accordi, specialmente rumori di cambio di chitarra. È proprio perché siamo in diretta, sono le 21.55 di questo giovedì 11 agosto 2011. Senza capotasto adesso? Senza capotasto per un brano che unisce due generi, uscito negli anni 80, però country. È quello lì che vedo, giusto? Sì, sì. Certo. Una cantonata grandiosa. questa musicista che adesso, cioè questa artista che cita Lucia cantando, è diventata famosa anche per un pezzo di Jim Steinman, Total Eclipse of the Heart, lo ricordi? Bellissimo pezzo, che era bellissimo. L'adoro. Jim Steinman era un produttore cantato da Bonnie Tyler. Sì, esattamente, proprio lei, produttore importante, arrangiatore. Daniele, a proposito di arrangiatori, sì, sì. Di quelli giusti, ha fatto un po' di tutto e ha lanciato Total Eclipse of the Heart, è stato un successo mondiale e poi si è un po' defilato, è un po' scomparso musicalmente, però questo è un pezzo molto interessante, un po' country, sì, però Bonnie Tyler poteva fare un po' di tutto, secondo sì, me, la sua sì, voce, sì, vero? Sì, una voce, aveva una voce graffiante. Molto graffiante, sì. Non era Rod Stewart in gonnella come un'altra sua collega, però insomma era un po', aveva una voce potente, più potente graffiante. Sì. Graffiante, sì, esattamente, sì. Quello. Okay. Mi sembra che tra l'altro la sua voce così graffiante sia dovuta anche a un calo di voce che ha avuto. È un problema, sì. Se non sbaglio, non so se ha avuto un problema alle corde vocali. E da allora la sua voce sì, è cambiata, ma è meglio, perché meglio, è diventata un po' più graffiante rispetto a prima, e quindi il suo problema di salute in questo caso, cioè, è stato un bene, una cosa positiva, diciamo. Bene, ascoltiamo allora. It's a heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. It's you when it's too late. It's you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in a cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Loving till your arms break. Then you let you down. In any right we love to share. when you find he doesn't care for you. In any way, still need someone as much as I depend on you. It's a heartache, nothing's but a heartache. Loving till your arms break, then he lets you down. Share when you find it doesn't care for you. In any way, still need someone as much as I depend on you. It's a heartache, nothing's but a heartache. Love until your arms break, then you let you down. Standing in a cold rain, feeling like a cloud. Maurizio, te li ho fatti vedere, avevo i brividi. Sì, questa bellissimo. È stata una delle canzoni, una delle primissime canzoni che mettevo ai tempi nel 1976 in radio, quindi 76, vabbè, diciamo la mia età. Beh, in casa eri giovanissima, eri giovanissima. Questo è stato il primo single, singolo di Bonnie Tyler che ha avuto successo. Bellissima, It's Heartache, è una canzone. È una versione country fatta da Daniele. Complimenti, Lucia. È assolutamente country. Sì. Bello che sia così, perché la musica country è musica importante in America, nonostante... Lucia, mi hai emozionato, eh? Oh, che piacere! Hai emozionato anche gli ascoltatori, certo, sicuramente. Certo, io parlo per me, ovviamente, non posso sapere, ma penso... grazie. Penso che... Sì, non me l'aspettavo questa canzone, sinceramente. Non me l'aspettavo nel senso che non sapevo la scaletta. Lui, Daniele, me l'aveva mandata, però non sapevo esattamente, non mi ricordavo esattamente. Sì, in effetti abbiamo poi aggiunto altri pezzi alla fine, quindi è stata una bellissima sorpresa. È stata una sorpresa, certo, va bene, certo. Sono contenta. Giustamente, Agostino, avremmo dovuto stravolgere, se no, sai, è giusto, sarebbe stato troppo facile. Ma è la caratteristica di Blu Radio Veneto, di Blu Radio Sera, di Rock Wave, il cambiare in qualche, cioè in movimento praticamente. È giusto che sia così. Sì, a noi ci piace così. Ma è, diciamo, da più feeling, da più trasporto, da più sensazioni, il cambiare in movimento, anche se è un po' complicato per la cantante, o per Daniele no, perché Daniele cambia. No, come no, vuole. A me piace tantissimo cambiare genere, quindi... Bravo, ma guarda che lei, come si dice in gergo, devo spezzare un'arancia a favore di Lucia. Si adatta subito, cioè è veramente versatile. Grazie. Gli fai un cenno e hai deciso di cambiare, lei capisce immediatamente. Sì, ci sentiamo. Comunque è una caratteristica, voglio spezzare un'altra arancia favore di Daniele, che comunque la sua caratteristica, comunque tutte le persone cantanti che hanno collaborato con lui, è proprio il fatto di seguire il cantante. Cioè comunque il cantante può fare qualsiasi cosa, lui è sempre lì pronto a dire ok, la mia struttura non è questa, è un'altra. Perfetto. E questo fa di Daniele comunque un chitarrista, diciamo, molto apprezzato. Un chitarrista molto chitarristico. Molto, diciamo, chitarristico. Daniele, già che parliamo di te lo strappo una cosa. Un'altra arancia. Strappiamo un'arancia, dai, Agostino. Io so che stai facendo un disco tuo. Sì. Ci fai ascoltare qualcosina? Un disco tuo? Allora, così facciamo riposare anche... Il mio produttore, Fabrizio Rizzo, che forse l'ascolto, che saluto, mi ha proibito di far ascoltare i brani, diciamo, inediti. Però sul disco ci sarà una cover. Che vabbè, io ho portato, che è un artista che amo moltissimo ed è un... Maurizio non legge, al contrario, se noti, è un brano che io voglio portare come sorpresa, volevo portarlo come sorpresa per Maurizio, la sorpresa è miseramente sfumata. E vabbè, voglio farvi sentire un brano di Johnny Cash che sarà presente sul disco, che forse è il suo brano più famoso, che è Folsom Prison Blues. Certo. Ok, vai pure. Grazie. I hear a train a-coming. It's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time's keep dragging on. But the train keeps rolling on down to Sant'Anto. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot the man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I hang my head and cry. Better is for eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigar. But I know I had it coming, I know I can be free. But those people keep moving, and that's what tortures me. Come on. Me from this prison, and the railroad train was mine. I better move it on a little farther down the line, far from Folsom prison. That's where I want to stay. And I'll let the losing whistle blow my blues away. Si può stare fermi un pezzo simile? No. Daniele, Man in Black, aveva la maglietta nera. Stasera avevi la maglietta nera. Quello motivo. Beh, ricordiamo che Johnny Cash è stato il primo a essere il vero uomo in nero. È stato lui il primo, con la scusa che non aveva nulla da mettersi per andare alla Sun Records di Sam Phillips a fare il provino. Tutti i musicisti devono qualcosa a Johnny Cash. Certo, poi sì. In un bel periodo non è stato un gran stinco di santo, quindi è stato un precursore anche dei punk che sfasciavano le camere d'albergo. Lui, Jerry Lee Lewis, insomma, era una bella combricola, sì, combricola di fuori di testa. Però poi lui ha preso questo ritmo che negli anni 30 era cosiddetto Carter Picking, che vabbè, poi viene la famiglia Carter, lui poi ha sposato June Carter, sì, che esatto, ha amato per tutta la vita. E c'era questa cosa qui, lui e Luther Perkins, che fratello di Carl Perkins di Blue Suede Shoes. Luther Perkins, chitarrista di Johnny Cash, il primo chitarrista di Johnny Cash, si sono messi, hanno perfezionato questa cosa, quindi hey, get rid of. When you get the blue haggard rhythm, when you get the blue haggard rhythm, eccetera, eccetera, eccetera. Eh sì. Con questa ritmica, il cosiddetto boom chica boom del country, è stato fondamentale. Poi Rex, sì, Rubin ha prodotto 4-5 dischi suoi, che è ritornato al grande successo. Più che successo, è ritornato alla popolarità. Sì, l'hanno omaggiato, One fatta da lui, ha detto, sì, lo stesso Bono. Ma c'è la forse la cover sua più famosa è quella di Personal Jesus dei Depeche Mode, anche Mode, quella fa sto your own personal Jesus, someone to hear your prayer, someone to care. Riprendono il riff, lo stravolgono ritmicamente, lui la canta, ci sono alcuni punti dove quasi quasi stona, però è magia. È magia, assolutamente magia. Meraviglioso. Sono 4-5 dischi, 5 dischi mi pare straordinari, prendere le cose i pezzi che lui amava li rifà di sana pianta al suo modo. Sì. È l'unico modo suo e basta, non ci sono altri modi di fare certe cose. Pazzesco. L'uomo in nero Johnny Cash, splendido, versione di Daniele, splendida. Assolutamente. 22:00, tutto in diretta, tutto live. Adesso ti metto in difficoltà, Lucia. Oi. Sei pronta? Aspetta che mi preparo. Sei pronta? Sì. Fai ipoteticamente, stiamo parlando, fai conto che prendi 5 dischi e te ne vai in un'isola deserta. Cosa ti porti? Allora, sicuramente Soul, quindi Stevie Wonder. Cosa ti porti di Stevie Wonder? Ecco, la mia memoria non mi aiuta tante volte. Sì, sicuramente delle raccolte, perché poi alla fine Greatest Hits, quindi Stevie Wonder, Whitney Houston, ma anche Tina Turner, appunto. Tutto il soul, tutto il soul, ma anche, non so, George Michael, mi piace moltissimo, anche Etta James, piuttosto che, non so, Anastasia o Celine Dion, wow! Una cosa così, insomma. Sì, molto easy. Oppure più aggressiva, più... Anche. Sì, io... diciamo che non ho un genere in particolare che mi piace di più. Diciamo che di più mi piace il blues, il soul. Però mi piacciono un po' tutti i generi, dal pop. Avrai dei dischi tuoi più preferiti? Sì, sono questi Whitney Houston. Diciamo, sì. Celine Dion, comunque anche Barbra Streisand mi piace moltissimo. Quindi non, come vedi non sono di generi diversi, certo. Mi piace spaziare in tutti i generi. E quindi porterei questi, sì, diciamo. Sono i tuoi, no? Sono i miei, sì. Mary J. Blige anche moltissimo. Ecco, Daniele mi aiuta sempre, perché a volte... C'è un motivo per cui ho citato Mary J. Blige, no? No. Va bene così? La mia preferita, Celine. Sai che ho conosciuto, quando sono stato in Sicilia, una collega, un'altra emittente di Radio Alcamo, Valentina, che ha avuto la fortuna, non sa neanche lei come, di proprio dialogare, proprio ospite di Celine Dion nel suo concerto a Milano. È stata una cosa pazzesca. Poi lei ha detto che è di una semplicità unica. Sì. E gli ho detto, Valentina, non puoi dirmi così. È vero. A me veramente mi incanta. Per me ascoltarla, potrei ascoltarla anche 10.000 volte, però... È una grande artista. Sì. Daniele, i tuoi dischi li abbiamo già ascoltati nelle precedenti puntate in cui sei venuto qua. Però poi di riprendere adesso, in questo momento, cosa ami particolarmente? Adesso cosa continuo a sentire? Una raccolta che si intitola Rancho Texicano, che è una raccolta degli ZZ Top, sono uno dei miei gruppi preferiti assolutamente. Vabbè, ci sono sempre i Rolling Stones. Beh, quelli ci sono sempre. I Rolling Stones ci sono sempre. Ci sono sempre. Keith Richards, per qualche motivo, è uno dei miei... Esatto. Io poi ho a casa una chitarra elettrica, una Telecaster, che è il mio tributo a Keith Richards. È una chitarra storica. E... Eccoli qua. I done ran into my baby. Woo. And finally found my old blue jeans. Questa non era prevista, eh? Sei sul palco assieme a loro. Non era prevista, ma non mi hai colto in preparato. Vedi, beh, è difficile colto. È difficile per te, assolutamente. Hai subito preso al balzo il discorso. Beh, insomma, se gli piacciono, ovviamente. È ZZ Top. Questo è un pezzo memorabile, questo dei ZZ Top. Quindi ZZ Top, poi i Rolling Stone e poi a Daniele. Vabbè, il mio mito di sempre è Eric Clapton. Claptoniano convinto. Sì. Quello non manca mai. Sì, però. Sì. Vabbè, io, il mio sogno è un giorno di salirci sul palco insieme. Quindi ah, se vuoi lo chiamo, te lo passo. Agostino, non fare scherzi, perché con Clapton non si tocca. Potrei svenire, più che altro. È pazzesco stasera. In scaletta questa? No. No, si vede, si sente. Solo da noi succedono ste robe, solo da noi. Assolutamente. È un nostro marchio di fabbrica. Vabbè, questo è uno dei brani, sì, è sotto pelle praticamente. Certo, esattamente. Certo. Beh, prima il microfono spento, possiamo dire ai nostri ascoltatori, lui ha intonato Leila, un altro classico sotto pelle, per tutti, me compreso, io ho una certa età ragazzi, quindi Leila me lo ricordo benissimo. E mi hai messo impreparato, poi hai preso impreparato perché l'hai cambiata un'altra volta anche quella. Però è bella, è sempre bella, è sempre un capolavoro assoluto. Bene, cosa abbiamo in scaletta adesso? Gli applausi sta provocando. Ricordiamo che questo è il primo Live Unplugged, ed Eric Clapton è stato il primo a fare i live acustici. È vero, è stato il primo in assoluto. Ma questo non lo sapevo. Vero. Certo che lo conosci benissimo, eh? A me piaceva anche la versione di 9 minuti e 15, quella allungata di Derek and Dominos. Bellissimo. Ah, incredibile, incredibile. Quella con... È vero. E beh, Eric Clapton è un grande. Ci piace tanto, ci piace. Neanche si vede, gli si sente. Allora, adesso cosa ci fate voi? Qualcosa di ma rimaniamo vostro. In tema... Avevamo lasciato Johnny Cash. Adesso cosa facciamo questo omaggio? Doppietto. Come dico io. Facciamo un doppietto, va bene. Sì. Johnny Cash, Johnny Carter, giusto? Beh, perfetto. Stile Johnny Cash, June Carter. Ok. Blue Radio. Just around the corner, there's a heartache. Down the street that loses you. If you can wait through the teardrop, you'll find me at your I walk and cry why my heart beats keeps time off the red of my shoes. The sun never shines through this window of mine. It's dark at the home of the blues. But the place is filled with the sweetest memory. Memory so sweet that I cry. Drink that I have left me feeling so bad. I just wanna give up and lay down and die. So if you just lost your sweetheart and it seems there's no good way to choose, come along with me, misery loves company. You're welcome at the home of the blue. Just around the corner, there's a heartache. Down the street, there loses you. If you can wait through the teardrops, you'll find me at the home of the blues. You're gonna find me at the home of the blues. Mi faccio portare una birra dal bar, ma bellissima, bellissima questo duetto, bellissimo, bellissimo, in stile proprio come avevamo grandi, grandi, grandi, veramente grandi. Grazie. Grazie. Un saluto da Alberto Lupi Musso, che è un pianista di Genova che è venuto a trovarci una settimana fa, ci sta ascoltando. E grazie, ciao Alberto. Ciao, ciao. Siamo piombati in questa meravigliosa atmosfera, cosa dite? Vogliamo rimanerci? Sì, dici? Ci rimaniamo. Con quel brano? Sì. Con quello lì, va bene. Ah, già, subito pronti? Certo. Sì. Ah, che meraviglia, sì. Cosa ci fate sentire? Staccano visti. giusto, giusto, giusto, giusto. Te l'avevo detto che dovevi abbatterci, Agostino, quindi. Io non ho problemi, eh. Mi dispiace per la povera Lucia che canta continuamente, insomma. Anzi, io... Diciamo che più canto, come hai potuto vedere, come avete potuto sentire anche... Passata il calore. Passa l'emozione, poi dopo certo, non sì. Mi ferma più nessuno. Che meraviglia. Allora, cosa ci fate ascoltare adesso? Beh, allora, è un brano di Christina Aguilera. Lei ha fatto questo album un po' blues qualche anno fa, si chiama I've Got a Trouble. Ok, vai vai. Yeah, yeah. I've got a trouble. Always knocking at my door. Yes, I'm all love of trouble, baby. Just like a kid at a candy store. Well, I'm nothing but a trouble, babe. Not since the day that I was born. Well, I'm as good as it gets. Give you something you won't forget. If you wanna spell a trouble, babe, well, I said on this and yes and yes. Cause baby's got a something, something you just can't ignore. And yet it sure is likely, babe, you keep me coming back for more. Yeah, yeah. I've got a waking taste for trouble, and I'm never, never satisfied. Yet I'm all of a trouble, baby. In my evil way, can I? Well, I've been itching for some trouble, babe, ever since the day that I'm alive. Yeah. Oh, yeah, yeah. Come on, baby, come on, darling, come on, sugar, ooh, yeah, yeah, yeah, yeah. Now listen, can't you see the way I move? Can't you really in my hips? There's more what's going on in my pocket full of tricks. Got some secret up my sleeve, if you know just what I mean. Got places you've never been. Take your heart and all your skin. Well, I'm trouble, trouble, trouble, trouble, babe. Always knocking on my door, yeah, yeah, yeah, yeah. Yes, I'm a whole lot of trouble, baby. Ooh, since the day, since the day that I was born. Bravissima, non pensavo che a Cristina Aguilera avesse scritto un pezzo simile, non è nelle mie corde Cristina Aguilera, sì. Però tu me l'hai fatta amare, visto che l'hai cantata chiaramente, non è assolutamente sulle mie corde, però un bel pezzo blues, molto blues, molto blues, molto sì. Sofferto, l'hai dato un'interpretazione sì. Molto forte e chiaramente Daniele ti ha seguito. Alla grande di par suo. E avevi il blues è nel tuo DNA, c'è poco da fare. Sì. Consentitemi di salutare due persone che sono all'ascolto. Una è una cara amica di questa emittente, si chiama Susanna, un bacione, ciao Susanna. Ma soprattutto poi devo salutare una persona che forse la conoscerete, si chiama Aaron Borelli. Sapete chi è? Non vi dice niente? No, scusami, non ho capito. Aaron Borelli. Non dice niente? No, perdonaci. Faceva parte del cast di Notre Dame di Paris, di Cocciante. Oh, pardon. Oh. È un caro amico, praticamente ha fatto capire che sta ascoltando, quindi mandiamo un caro saluto. Quindi sì, certo. Una canzone per lo salutiamo Aaron. Anche noi, molto volentieri. Lui ama molto, ci sentiamo perché abbiamo gli stessi gusti, spesso e volentieri, no? Anche lui ama il soul, il blues, eccetera, anche canzoni datate, diciamo. E quindi mi fa piacere sapere che è all'ascolto. Quindi sì, ci vogliamo magari, gli dedichiamo una canzone. Sì, certo. Quella lì? Quale? Questa? No. Sì, dai, visto che è blues, mi piace il blues. Dai, rimaniamo in tema. Bonnie Raitt. Ok. People are talking about people, I hear them whisper. You won't believe it, they think we love us. Give them the cover, I just ignore. They keep saying, well, they're just a little too loud. Stand just a little too close. Stand just a little too long. Maybe they're saying something we don't, darling. Let's give them something to talk about. Let's give them something to talk about. Let's give it something to talk about. How about a love? I feel so foolish, I never noticed you act so nervous. Could you be falling for me? It took the aroma to make me wonder. Now I'm conceiving that I'm going under, thinking about you every day, dreaming about you every night. I hope you never feel the same way. Now that we know it, let's really show, darling. Let's give it something to talk about. A little mystery to figure out. Let's give it something to talk about. How about a love? Something to talk about, babe. A little mystery to figure out. Let's give it something to talk about. About a love. Listen to me, baby. A little mystery won't hide a hair. Let's give it something to talk about. About a love. Love, love. Mi piace sempre il sorriso che fa la Lucia dopo aver terminato la canzone. Sì, che è un momento di liberazione. Di esatto, a me. Vedo che mi hai capito al volo. Da sottolineare che questa è una musicista che non si fa mica pregare sul palco. No. Una veramente tosta. Musicista, cantante. Ottima cantante, ottima chitarrista. E anche una showman. Tutti, e ottima chitarrista di woman, Slide. Showwoman, praticamente. Ottima chitarrista, sì, Slide. Esatto, è vero. Ottima chitarrista Slide, sì, hai ragione. Poi fa un po' di tutto in America, è molto famosa. Sì, sì. Fa un nocciolo duro di appassionati, non soltanto un nocciolo, decisamente famosa. In Europa un po' meno, in Inghilterra qualcosina. In Italia non è conosciutissima, però è una che veramente sul palco si dà da fare alla grande. Sì. Sì. Ok, bene, adesso, sono le 22:30. Sì, vi rubo 40 secondi. Vai, vai. Certo. Spot. La GMG 2011 a Madrid è anche su Blu Radio Veneto. Ogni giorno collegamenti con la Spagna e i nostri giovani che partecipano alla Giornata Mondiale della Gioventù. Madrid 2011, fino al 19 agosto alle 14:30 e 20:30 e in podcast su bluradioveneto.it. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, il primo tempo l'abbiamo terminato. Sì, come al cinema c'è il primo tempo, poi c'è il secondo tempo. Si sono rifocillati, si sono rilassati, hanno bevuto, fatto il giretto, fumato la sigaretta, no? No, quella fa male, assolutamente. Io non fumo personalmente. È vietato, assolutamente. Siamo pronti per la seconda parte. Sì, la seconda parte 22:31, quindi è passata un'ora e mezza piacevolissima. E abbiamo esplorato anche pezzi non conosciutissimi, e questa è una cosa molto positiva, secondo me. Bisogna esplorare anche le cose che non sono così conosciute. Sì, certo. E serve. Adesso stai girando i fogli, dove sì. Ti sei fermata? No, perché Daniele mi dice Daniele ti ha fatto girare le fogli e vi siete fermati dove? Lavoriamo su questo. Un brano, potremmo dire, perfetto. Perfect. Proprio qui. Sicuramente Agostino lo riconoscerà al volo appena le prime note. Tu fammelo sentire. Anzi, faccelo sentire a tutti. Ok. I I don't want a love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it, yeah. Too many people taste second best, but I won't take anything less. It's got to be, yeah, perfect. Young hearts are foolish, they make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right. It's got to be perfect. It's got to be worth it, yeah. Too many people say second best, but I won't take anything less. It's got to be, yeah, perfect, yeah. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I've been foolish too many times. Now I'm the time, I'm gonna get it right. It's got to be perfect. It's got to be worth it, yeah. Too many people, they say I'm bare, but I won't take anything less. It's got to be, yeah, perfect. It's got to be, yeah, perfect. It's got to be. Bellissimo, bellissimo. Da uno swing all'inizio, dello swing a uno scatenamento totale al finale. Sei grande, Lucia. Oh, grazie. Per chi i pochi non sanno l'autore, citiamo l'autore, vai. E sono i Fairground Attraction. Perfetto. Un gruppo degli anni 80, non erano molto conosciuti, però questo è un sì, pezzo, in effetti, però non so se abbiano fatto ancora altro, ma però questo è un pezzo molto conosciuto all'epoca. A proposito di gruppi, io so che tu canti assieme ad un'altra tua cara amica, i Jamiroquai. Sì, che tu conosci perfettamente. Sì, Ilaria, sì. Basile, ciao, ciao Ilaria, ne approfitto per salutarla. Ciao Ilaria. Ciao! Ciao! Che sorpresa! Eccomi qua in diretta, apposta per salutarvi. Ciao Ilaria, com'è? Ciao, com'è? Cara. Posso dire una cosa, Agostino? Allora, dimmi. Io canto con lei, ma non l'ho mai sentita cantare da solista. Anche se ci conosciamo da tanto, perché abbiamo iniziato insieme in un coro, quindi lì facevamo i cori e sai, per pochissimo tempo i solisti non ce n'erano. Ahimè. Dopodiché ci siamo ritrovate nei Jamiroquai e anche lì a fare i cori, ma io non l'avevo mai sentita cantare dal vivo. E Lucia, io ti devo fare i complimenti, tu sai quanto io sia critica e quanto Pignola, non faccio di complimenti me se una persona non mi piace come me. Grazie Ilaria, siamo uguali su questo. Sei veramente grazie, brava. Non ti avevo mai sentito, diciamo, da solista. E trasmetti, mi piaci, come dico io sembri quasi una cantante vera. Ah, grazie. Una cantante vera. Anche te sei molto brava, sei bravissima. Grazie. Tu mi hai sentito cantare forse, sì, sì a differenza sì, mia. Sì, mi hai fatto sentire qualcosa, ma dal vivo live da sola tu non ho mai sentito niente. No, non avevi mai sentito. Vabbè, mi hai no. sentito sul mio space, vero? Sì, sì, sì, sì. Bene, bello, un saluto anche al caro collega. Ciao Ila. Dimmi Agostino. No, no era Daniele questo. Ah, il caro collega era Agostino. No, grazie, se volete che vada non c'è problema, ditemelo. Non ho capito cosa hai detto Ilaria. Ho detto che al telefono si fa fatica a capire, certo. Un pochino, perché adesso non mi sto ho abbassato la radio perché so che sennò dopo va in Larsen, sì, che avete problemi e quindi l'ho spenta, vi sto sentendo direttamente dal telefono, ma certo. Si fa un po' fatica. Comunque tanti complimenti, siete veramente bravi. Grazie, grazie Ilaria, ma un bacione. Di un po', Ilaria, com'è Lucia quando è con te? Svelaci qualche segreto, qualche aneddoto. No, beh, in che senso? Cosa vuoi sapere? Non lo so, Agostino, dimmi tu qualcosa che non no, sappiamo. No, è molto professionale, sì. Ed è molto pignola ed esigente, quello sì. Oh, grazie, anche tu lo sai. Quello sì. Per quello che andiamo d'accordo. Siamo molto... guardiamo un po' le virgole, anche sì. Se io magari a volte lascio un po' correre perché sto cercando di essere un po' più elastica, perché sennò uno non vive più. Però comunque siamo molto simili da questo punto di vista, sì. Ilaria, mi concedi 30 secondi che prendo un fazzoletto per asciugare le lacrime? Alla Lucia. Io non vi vedo. La Lucia si sta commuovendo. No. Ti sto facendo troppi complimenti, sì, cara. Sì, sì. No, infatti te non sei mai da complimenti. No, se li faccio, allora quando li faccio è perché vengono dal cuore e sono sinceri, sì, certo. Se no ti ho già spiegato come sono, sì, non sì, li ma faccio. Anch'io sono come te, guarda, se li faccio, penso, li faccio, no, non li faccio, sento non veramente. Ti dico neanche che sei bravo, se no sto zitta, vengo lì, ti saluto e stop. Vai. Ilaria, come funziona questo gruppo dei Jamiroquai, questo tributo? Ma noi, guarda, è un progetto che è nato diverso tempo fa, abbiamo cambiato 50.000 elementi, e diciamo che dopo parecchio tempo abbiamo fatto delle serate al mese di luglio, abbiamo debuttato appunto con l'ingresso anche di Lucia. Ci divertiamo da morire, sì, ecco, quello sì, sì, è un gran ci divertimento. Scateniamo. Ci scateniamo perché ci piace molto quel genere. Sì, ci scateniamo moltissimo, lì balliamo, cantiamo, cioè facciamo i cori noi due, quindi abbiamo questo ruolo di coriste e ci divertiamo da matti comunque, sì sì. Certo. Veramente. Ilaria, sì. Io ti aspetto qui a Padova, lo sai, vero? Sì, lo so, io devo... È un'altra delle cantanti che ho contattato, Maurizio. Ah, che... bene. Lo so che... non ti preoccupare che... spero presto, non dipende da me purtroppo. Io non so suonare, quindi devo per forza trovare c'è qualcuno Daniele. Che mi accompagni. C'è Daniele. E quindi è un tour de force, tutto la maratona. Quello, senti, la prossima volta porta una valigia o qualcosa. Metteteci una branda qui con Radio Veneto, dai, sto qua a dormire sotto il tavolo. Ilaria, c'è Daniele, chiedi a lui, ti porta, non c'è problema. Va bene, mi porta lui, ok. Sì, veniamo con la mia macchina, Ilaria, non ti preoccupare, lo porto io. No, se vuoi con la mia che è GPL, consumiamo anche noi. Non c'è problema. Terrò presente, va bene. Terrò presente, è un po' piccola, però vabbè, fa niente, dai, sì, sì. Un po' di chilometri li può fare. Va bene, dai. Non c'è problema. Ce la possiamo fare. Ilaria, ti ringrazio di questa sorpresa che hai fatto, che ci abbiamo fatto insieme, questa idea che ho avuto di chiamarti per parlare. Sì, hai fatto proprio bene, sono stata proprio contenta. Ecco, bene. Grazie Ila, un bacione. Ciao. Dovevo fare la par condicio, so. Una Daniele e uno a Lucia. Beh, certo. Ti ha fatto piacere, spero. Sì, moltissimo, non me l'aspettavo. Ci siamo concordati qualche giorno fa, perché io faccio sempre il Daniele, ma mica ha imparato a conoscermi, no? Ma io se posso, se riesco, cerco sempre di contattare un amico, un cantante, un musicista, qualcosa che ha a che fare con l'artista che viene qua, proprio per regalargli questo momento di sorpresa, insomma, diciamo, di caramba, come dice Chiara. Caramba! Perché penso possa far piacere, insomma. Sì, moltissimo, moltissimo. Va bene, noi ci siamo viste settimana scorsa, però comunque fa sempre piacere. Guarda, quando io gliel'ho detto a... sì, mi fa sushi. Pensati che questa sera era di prove lei, ed è rientrata, se non sbaglio, è rientrata un po' prima proprio per farti questa sorpresa. Mamma mia, mi ho dato tanti bacioni. Dai, gli dedichi la prossima canzone, che così cosa gli fai ascoltare. Allora. Cosa ci facciamo di regalo? Beh, visto che comunque ci piace molto la dance, anche l'aria è molto lanciata sulla dance, fa anche comunque. Abbiamo questo pezzo di Diana Ross, Upside Down, degli anni 70, penso, sì. Sì, degli anni 70, sì. E, beh, un classico su Upside Down. L'abbiamo un po' rivisitata, soprattutto a livello musicale. Ah, sì? Grazie al nostro Keith House. Ah, va bene. Ah, sono stato io. Vabbè, ma... Allora, lo so. A meno che non l'hai copiato da qualcuno. No. Scherzo, scherzo. Troppo complicato. Allora, Upside Down, Lucia Caputo e Daniele Brondelli. Upside down, you turn me, you give it all instinctively. Round and round, you turn me. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Instinctively, you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully, I say to thee, I'm aware that you're cheating, but no, it makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Know you got charm and appeal, you always make me feel I'm crazy to think you're all mine. As long as the sun continues to shine, there's a place in my heart for you, that's the bottom line. Upside down, boy, you turn me inside out. Round, round, upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moment with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating. No, it makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round. Round, upside down, you turn me, you'll give it all instinctively. Round and round, you turn me, I say to you respectfully. Upside down, you turn me, you'll give it all instinctively. Round and round, you turn me, I say to you respectfully. Upside down, you turn me, you give it up instinctively. Round and round, you turn me, I say to thee respectfully. Upside down, you turn me, you give it up instinctively. Round and round, you turn me, I say to thee, I say to thee, I say to thee, I say to thee, I say to thee. Upside down, you turn me. Round and round, you turn me. I say to thee, I say to thee. I say to thee, I say to thee. Respectfully. Ah. Wow. Bravissimi, bravissimi, veramente bravissimi. Grazie. Oh, grazie. Poi Daniele ha fatto anche le percussioni con la chitarra, praticamente. Fa tutto. Una piccola batteria, un piccolo momento percussivo. Ci stava perché il pezzo andava così. Sì, abbiamo fatto di tutto, abbiamo infilato un pezzo di rap, poi c'è dentro il riff di Blow Up, di RBS, insomma. Un po' di tutto, abbiamo combinato, cioè, combinato le cose. Ma io ricordo un pezzo molto importante anche di Diana Ross, Team from Moabi. Ti ricordi? Quello era il pezzo più, no, questo è un pezzo abbastanza dance, quell'altro più romantico, più di intrattenimento, sì, accattivante. Ecco, quello è un grande successo. Sì, beh, sì, sì, lei sì, veniva da un trio, non da poco, musicisti straordinari, cantanti straordinari, le tre ragazze sono praticamente. Sì, sì. Daniele. Sì. Ce l'hai un regaletto per il nostro vecchietto qui? Un regaletto per sì. Sì. Uno era Johnny Cash. Sì. L'altra, no, copri con la mano, se no guarda, poi dopo non va bene. Io so che c'è un regalo per il nostro. Glielo facciamo al nostro vecchietto. Sì, sì. Per Maurizio. Mi perdonerai, non la facciamo in accordatura aperta, 5 corde, però. A man, a jean song in Baroque Queen in Memphis. She tried to take me up so for a ride. She had to have it right across her shoulder, 'cause I just can't seem to drink you off my mind. It's a honky tonk woman. Gimme the honky tonk blues. I play a divorcee in New York City. I had to put out some kind of a fight. The lady vanished, covering me with roses. She blew my nose, she blew my mind. It's a honky tonk woman. Gimme the honky tonk blue. It's a honky tonk woman. Gimme the honky tonk blue. Is the home honky tonk woman. Gimme the honky tonk blue. Gimme the honky tonk blue. Gimme the honky tonk blue. Lascio la parola a te, Mori. Ah, cosa posso dire? Mi ha emozionato. Mi ha emozionato. Oh, almeno non ha capito la seconda, non l'ha capita almeno, mannaggia. Bellissimo, bellissimo. Complimenti. Grazie. Fa parte del mio DNA anche questo, se poco da fare. Lo so, purtroppo anche del mio. Vabbè. Sai che quando dico purtroppo vuol dire che mi piace molto. Sì, ma un purtroppo positivo, dai, non un purtroppo negativo, assolutamente. Però oltre a una sorpresa per Maurizio, certo, abbiamo anche una sorpresa per Agostino, noi. Ah, sì, bene. Cosa c'entro io? La chitarra. Come cosa c'entro? Abbiamo delle sorprese, come a Natale. Sì, babbo. Esatto, abbiamo portato, sai che il 24 dicembre vi è stato di rosso anch'io. Esattamente. Certo. E abbiamo questa cosa, una cosa per te, tutta per te, sei contento? Grazie. Vai. Just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, I'll be facing this alone for much too long. I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. It must agitate my mind, and I've been looking back to find when I went wrong. Too much love will kill you if we can't make up your mind. Torn between the lover and the love you left behind. You had a fall disaster, 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. I'm just a shadow of the man I used to be, and it seems like there's no way of this for me. I used to bring you sunshine, now all I ever do is bring you down. Oh, how would it be if you were standing in my shoes? Can't you see that it's impossible to choose? Look, there's no making sense of it. Everywhere I go, I'm bound to lose. Yeah, yeah. Too much love will kill you, just to show it's not at all. Drain the power that's in you, make you plead and scream and crawl. And pain will make you crazy, you're the victim of your crime. Too much love will kill you every time. Continua ancora a suonare, Daniele, continua, tieni sotto fondo, Daniele, continua, continua. Vai, vai. Lucia, la tua grazia non fu mai superata da nessun altro uomo. E perché un uomo abbandoni ogni cosa, basta il racconto della tua stupenda bellezza. Grazie. Avete fatto un pezzo di Queen, cioè di Queen, di Brian May, che è qualcosa di fantastico, insomma. Grazie, grazie mille, un omaggio per te, visto che ti piace molto. Sì, questo pezzo mi piace veramente tantissimo, come ovviamente tante canzoni dei Queen, ovviamente, insomma. Ma questa poi è stata fatta in omaggio dopo a Freddie, dopo la sua scomparsa, sì. È stata incisa dopo questa. E sentirla in versione maschile fa un certo effetto, ma sentirla cantata da una voce come la tua al femminile, ovviamente, oh, è tutta un'altra cosa. Poi magari ce la rifai. Ah, okay. Ho avuto i brividi anch'io, Agostino. Sì, quando l'ho cantata la prima volta in prove, devo dire. Decisamente un'ottima interpretazione. Mi avete fatto un grande... Io te l'avevo chiesta così, tanto... Tu non sai che noi prendiamo alla lettera, tu mandaci la lista della spesa e noi ti musichiamo anche il supermercato. Capito? Ma io ti avevo chiesto, ce l'hai per caso? E tu hai detto, ma boh, non so, vediamo. Vedremo, sì. Non ti preoccupare. Riferirò. Sempre... Riferirò al capo. Che sempre dire? Inglesi sono in ogni caso. Grazie comunque. Sempre inglesi, due maggi, grazie sempre a te, inglesi. Bellissima frase. Sì. C'è poco da fare. E gli inglesi... E gli inglesi... Gli altri erano in due, questi erano in quattro, cioè più di due che hanno scritto i pezzi, niente, gli altri erano solo in due, però che due, che testa che erano. Sì, vabbè, siamo Jagger Richards. Chi vuole, esattamente, io volevo scoprire, cioè volevo che gli ascoltatori scoprissero questo, però insomma l'abbiamo c'è mancato scoperto, poco che spegnessi la luce. Esattamente. E sul libro di Life, cosa c'è scritto di questo pezzo che mi hai dedicato? Anche tu, che hanno cominciato a scrivere la preversione molto, molto country mentre erano in giro anche reggae, secondo me in Sud America, perché lì c'è una cosa particolare, c'è l'intreccio. Keith Richards è sempre stato un chitarrista ritmico che suonava, aveva come riferimento nel suonare Charlie Watts. È sempre stato il... Lui faceva sempre così, eh? Sì. Charlie Watts fa sempre fatto così, esatto. Per 40 anni, continuerà sempre a fare così. Esatto, però questo suono all'inizio, questa batteria che parte, lui fa sta proprio... Esatto. È un singolo, come si dice, bestiale, questo che ha fatto un successone incredibile. Beh, poi vabbè, Keith Richards è stato molto appassionato di musica reggae, vissuto in Giamaica, certo. Ne ha combinati tutti i colori, tutti i colori, Giamaica, esatto. Sappiamo. Sì, esatto. Ha prodotto, poi ha suonato con musicisti giamaicani, insomma, è una persona comunque, vabbè, a parte che secondo me è un genio sia della chitarra che un genio della musica in generale, poi è una persona di una sensibilità incredibile. Ti faccio una domanda a bruciapelo, qual è il pezzo dei Rolling che ti fa venire a pelle d'oca, oltre a questo che mi hai dedicato? Beh, ma il pezzo che mi fa venire sempre veramente i capelli in piedi, scusate, il pezzo che mi fa venire veramente sempre i capelli in piedi è sempre questo qui. Rainbow. Mannaggia. È un po' difficile quello. No, dovrei cambiare. Mi perdonate, dovrei anche cambiare accordo tu. Perché io amavo i Rolling quando c'era Brian Jones. Lo so. Molti dicono che sono finiti con la morte di Brian Jones. Brian Jones era uno che riusciva a dare qualcosa di diverso. Dobbiamo tener conto che il nome Rolling Stone è stato fatto da lui, è stato creato da lui. Sì. Questo e tante altre cose. Perché lui aveva degli strumenti particolari, i suoni di Lady Jane, i suoni di Tears Go By, che era un pezzo scritto per Marianne Faithfull, anche quello c'era Brian Jones dentro, anche, sì. Se no, anche se non è provato che non è stato scritto da lui, però qualcuno dice che è stato anche scritto da lui, ci sono delle, tu che sei un esperto di Rolling, ci sono delle interpretazioni diverse, e i pezzi come Lady Jane, Caesar Rainbow e Tears Go By, i primi pezzi dei Rolling, quelli da Aftermath, quelli sono i Rolling che amo particolarmente io. Ma non posso darti torto, io nonostante vabbè, gli album che siano usciti con lui, non amo moltissimo Mick Taylor, non me ne voglia, per amore di cielo, però Ronnie Wood mi piace molto, ti piace di è più. un bel personaggio. Mick Taylor poi se n'è andato perché era solitario, non voleva partecipare a tutte le loro feste, vabbè, non possiamo neanche dargli tutti i torti in fondo, sì, feste un po' particolari, che casini combinavano, però Brian Jones poi vabbè era un genio, magari c'è stato un periodo che si era scocciato la chitarra, so prende in mano il sitar, lo suonava il sitar, sappiamo dove, certo, dove, certo. Dove l'ha suonato, sì, no? Sì. Ragazzi geniaccio, però assolutamente. Era debole, però sì, poi quello era debole, era un personaggio che bravissimo ma era debole rispetto alla leadership dei due marpioni, ma poi due geni lo prendevano in giro, dato che lui era proprio piccolino e usava, ha comprato una Rolls Royce e racconta lui andasse in giro con un cuscino perché non arrivava al finestrino, gli rubavano il cuscino per non farlo andare in giro. Questo è verissimo, tu hai detto una cosa giustissima e verissima, lo prendevano in giro, purtroppo vabbè, poi le cose sono andate in una certa maniera, vabbè. Ok, queste sono le mie preferenze rollistoniane, cioè... non posso darti torti, ecco, diciamo, però. Non posso darti torti, insomma. Allora, Blu Radio Veneto, questa è la vostra emittente in questo istante, 88 794 600 MHz in modulazione di frequenza, Agostino Spolaore e Maurizio Calzavara, ma soprattutto Lucia Caputo, Daniele Bonadei, con questa serata dedicata al soul e al blues, ma anche escursioni al rock, pop abbiamo fatto un po' di tutto, insomma. E io chiedo provo quella cosina, ce l'hai? Quella con Eva, quella volta che avevi fatto, ce l'hai con lei? Ah, la fai dopo? Sì, la fai dopo, sì, la fai dopo, sì, la c'è bene è un altro omaggio per Maurizio quello, Sì. 2-1 è il nostro vecchietto, bisogna trattarlo bene, abbiamo anche strafatto. Sì. No, non per parlare di Kittrich, ma abbiamo, sì, abbiamo strafatto. Adesso cosa ci fate? Allora, un pezzo sempre degli anni 80, Harder My Heart. Ah, wow. Bello, molto bello. Io l'ho sentito in prova prima, vi posso garantire che è da pelle d'oca questa. Oh, grazie Lucia, sei grande qui. grazie. Sei pronto? Sono pronto. Ok, andato. Crying on the corner, waiting in the rain. I swear I'll never ever wait again. You give me a word, but words for you are lies. Wildest dreams, I never thought I'd go. But it's time to let you know. I'm gonna harden my heart. I'm gonna swallow my tears. I'm gonna turn and live in you. All and all my life, I've been waiting in the rain. I've been waiting for the feeling that I ever came. It feels so close, but always disappears. Talking in your wildest dreams, you never had a clue. But it's time you got the news. I'm gonna harden my heart. I'm gonna swallow my tears. I'm gonna turn and live in you. Dawning in my wildest dreams, I never thought I'd go. But it's time to let you know. I'm gonna swallow my tears. I'm gonna turn and live in you. I'm gonna harden my heart. I'm gonna swallow my tears. I'm gonna turn and live in you. Fino all'ultimo secondo, perché è un pezzo famosissimo. È stato un singolo, però, e poi sono scomparsi. Questi, sì, Water Flash si chiamano. Water Flash. Esattamente. Purtroppo sono scomparsi. Era un gruppo notevole, aveva le sue buone frecce da usare, però. Un'icona, tanti gruppi degli anni 80, esattamente. Posso farmi una domanda, così, una semplice curiosità? Ma voi qualche canzone in italiano la fate? Avete? Ce l'abbiamo. guarda, no. Ma non questa sera. Mi sto guardando il telefono, guarda. Ma non questa sera, parlo in generale. Ce l'avete voi qualche canzone che fate in italiano? Sì. Ah, no. Ce l'abbiamo. Cos'è che fate in italiano? Posso saperlo? Ma abbiamo un pezzo di Mia Martini, Notturno. Esatto. Che stiamo preparando. suonando, perché va un po' arrangiato, che ci sono alcuni brani che, essendo nati da pianoforte, sulla chitarra hanno bisogno di qualche adattamento. Questo qui, per Harder My Heart, per esempio, non ha avuto grossi problemi, perché è in tonalità originale e ha funzionato subito sulla chitarra. Immediatamente l'hai trovato, insomma. Esatto, altri brani che magari sono in tonalità più particolare hanno bisogno di qualche lavoro, per cui ci sto lavorando, ma il capo mi pressa, ma poi arriverò. Ma no, ma non è vero. Bene, dai. Allora, vi ricordo i nostri numeri telefonici con il studio: 049 875 6423, 346 23 20 033 invece è per quanto riguarda i vostri SMS. Blu Radio Veneto, Lucia, Daniele, che ci fate ascoltare adesso? Allora, abbiamo sempre, rimanendo negli anni 80, questo è bellissimo, ho visto il titolo, è bellissimo. Io non vedo mai niente. degli anni 80, dicevo, Walk Like an Egyptian, wow, delle Bengals. Però l'abbiamo fatta un po' strana, perché l'originale era una cosa tipo, sì, però che sembrava un po' gli spari sopra alla fine. Allora, dopo averla provata tipo due settimane così, che è uscita fuori sta roba, non ci piaceva più. Non va bene, cosa tireremo fuori? Allora è arrivata sta cosa qui. All the own paintings on the tomb, they do the same dance, don't you know? If they move too quick, they're falling down like a domino. And the boss of man by the Nile, he got the money on the bed. All the crocodiles, oh hell, there's never anything you cigarette. Foreign types with a hookup pop saying, hey, oh, hey, oh, oh, hey, oh, hey, oh. Walk like an Egyptian. The blonde waitress says, take the trays, they spin around, they cross the floor. They've got the moves, oh, hey, oh. You drop your drink, then bring you more. All those cool kids so sick of books, they like the punk metal band with the bars and rings, oh, hey, oh. They walk like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, hey, oh, hey, oh. Walk like an Egyptian. Street, bend your back, shift your arm, then pull it back. Life hard, you know. So strike a pose on the Cadillac. If you want to find all the cops, they're hanging on in down the shop. They sing and dance, oh hell. They spin the club, cruise down the block. All the Japanese with the end, the party boys call the Kremlin, and the Chinese know, oh, eh, oh. They walk the like Egyptian. All the cops in a ton of shops say, hey, oh, hey, oh, mm, hey, oh, oh. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. But papaya, papaya, papaya, papaya. Perfetto, perfetto, l'hai rallentata benissimo. A me è venuto in mente questa bossa, proprio bossa. Esattamente, bossa. È venuto in mente qualcosa di qualche spezzone di Everything But The Girl, qualcosa facevano. Wow, te li ricordi, Maurizio, addirittura? Sì, quelli sì, qualcosa facevano, un bel gruppo, un gruppo notevole. Sì, anche loro sono spariti. Sono spariti. Sì, però, hanno fatto qualcosa recentemente. Sì, recente qualcosa, si sono mossi, sì. E qualcosina mi ricordavano loro, non determinate cose, tutte cose, però qualche spezzone di bossa nova ci mettevano spesso e volentieri anche loro. Che poi una cosa interessante è che io spesso arrangio le cose con il ritmo bossa nova, ma io non sono un amante nella musica brasiliana, né della bossa nova, però prendo queste cose e fingo. Ti chiamerò zio Dani adesso, posso? Oh signore, oh chi signore. Zio Dani, sei forte. Questa è mia nipote. E grande anche Lucia. Oh, grazie, ciao. Questa Marti. È mia nipote, ciao Marti. E bravo, Martina. Martina, grande, mio tesoro. Ciao. Tutta Martina. Ti sta ascoltando anche lei da Milano? Da Milano. Benissimo. Anzi, da Seveso, abito a Seveso. Dove c'è la nuvoletta ancora? Eh? Esatto, c'è la diossina. Sono arrivato io, la respiro tutta, ecco. Io, non vi preoccupate. Allora. E i risultati si vedono, sì, purtroppo. Fa purtroppo. sei grande Daniele, sei un caro amico. Allora, che punto siamo? Siete stanchi? Ma quante canzoni? Quasi alla fine? Quasi alla fine, sì, sì. Facciamo quest'altro pezzo, Dani, che dici? Quello lì? Sì. Sì, aspetta, ho bisogno del capotasto. Ah, il capotasto? Il capotasto che io chiamo il capotavolo perché sembra quello per tenere ferme le tovaglie, no? Al bar, per evitare che volino via. Oh, questa è sempre accordata, molto bene. La meraviglia della diretta, sentite proprio il cambiamento delle chitarre, dei suoni, degli accordi. Allora, è un pezzo... Vabbè. Ma no, non diciamo niente, non dai, diciamo dai niente. Lo indovinate, dai. Tanto lo indovinerete nel giro di 10 secondi cronometrati. Ok, io li cronometro. Vai! And you can dance for respiration. To prove your love to me, yeah. Get up on your feet and step to the beat. Run, when will it be? Music can be such a revelation. Dancing around, you feel the sweet sensation. We might be lovers if the rhythm's right. I hope this feeling never ends tonight. Only when I'm dancing can I feel this. I lock the doors when no one else can see. I'm tired of dancing in all by myself. Tonight I wanna dance with someone else. Get into the groove, boy, you got to prove your love to me. Yeah, get up on your feet, yeah, step to the beat. Born when will it be? Can get to know you in a special way. This doesn't happen to me every day. Don't try to hide and always know this guy. I see the fire burning in your eyes. Gonna win a feeling, then I feel this free. And I lock the doors while no one else can see. I'm tired of dancing in all by myself. Tonight I wanna dance with someone. To the groove, boy, you got to prove your love to me. Yeah, get up on your feet, then step to the beat, boy, when I be. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Live out your fantasy here with me. Just let the music set you free. Touch my body and move in time. Now I know you're mine. Now I know you're mine. Now I know you're mine. Now I know you're mine. Now I know you're mine. You got to. You got to. Yeah, you got to. You got to. You got to. You got to. You got to. Eh sì, avete capito bene, già avevamo Madonna sì, qui in studio. Ma signora Veronica Ciccone in fase calante secondo voi adesso oppure no? Come in fase calante? Cioè è stata sostituita da Lady Gaga, questo voglio dire. Direi proprio nell'immaginario di sì. Collettivo secondo voi? Secondo me sì. O ha qualche freccia ancora da tirar fuori? Probabilmente sì, io mi aspetto molto e altro da Madonna comunque. Cosa dici te, Darina? Io sono sempre stata una devo essere sincero, mi attirerò odi e rimproveri, ma per me Lady Gaga non sta inventando nulla di nuovo, sta prendendo qualche cosa di vagamente scandalistico che ha fatto Madonna in all'epoca. Tempi ben più... più difficili, più difficoltosi, esatto. E lo sta riproponendo, ma secondo me Madonna fra un po' tirerà fuori ancora qualcosa. È sempre un artista che ha saputo circondarsi di ottimi produttori, certo. E vabbè, la sua collaborazione con William Orbit, ragazzi, ha fatto cose veramente eccezionali. E secondo me fra un po' tirerà fuori dal cilindro qualche altro coniglio molto interessante. Lo sai che un disco è stato prodotto anche da John Harry di Madonna, lo sai perché, no? Perché la sorella di Madonna ha sposato John Harry. Ah, ecco. Volevo dire una cosa. Solo per quello. In famiglia. In famiglia. Beh, John Harry, indipendentemente, è un grandissimo musicista. Merita assolutamente di... Ha fatto delle cose meravigliose. E ha avuto la produzione. Un giorno ha prodotto un disco di Madonna. Vai. Tra parentesi, chiusa la parentesi, quindi secondo te Madonna ha ancora qualcosa da dire? Secondo me sì, qualche cosa succederà. È chiaro che man mano vai avanti, produci non so quanti dischi ha prodotto, produci un sacco di dischi, alcuni quasi uno dietro l'altro, poi c'è bisogno di tanto respiro. Certo. Però secondo me tirerà fuori ancora qualcosa di tosto. Sì, Lady Gaga adesso vende un personaggio sulla bocca di tutti, però non ha, secondo me, la dimensione che aveva Madonna. Non trovo questa grinta, anche perché poi sta percorrendo una strada già percorsa. Sì, sono d'accordo con te. Madonna si è evoluta molto nel look, si è evoluta musicalmente, si è evoluta anche tecnicamente, perché comunque in tempi passati ha preso lezioni di canto, è diventata più brava. Ha rischiato di suo sempre. Come cantante, sì, ha rischiato, prodotto, è brava, produce, ha prodotto anche gruppi, ha prodotto, prodotto cantanti, quindi insomma c'è un discorso forte comunque suo. Sì, esattamente, ha prodotto anche dei gruppi molto interessanti, quindi non è una che si dà da fare, cioè rischia di suo, come abbiamo detto, assolutamente. Sì, quello è suo, proprio vita privata. Io non guardo mai la vita privata degli artisti. No, no, rischia musicalmente anche di suo. Però ragazzi, ha fatto un buon percorso, ha innovato delle cose, una scena che comunque ha fatto riferimento a lei per determinate cose. Infatti Lady Gaga, Lady Gaga tecnicamente sa cantare. Io cercherei di distaccarmi un pochino, perché è facile seguire, vabbè, l'hanno già fatto, quindi è facile seguire un pochino questo il discorso di altri, però può farlo, magari può iniziare copiando e poi andrà avanti per la sua strada. Ti ho fatto questa domanda da musicista e tu hai risposto giustamente da musicista, è una cosa perfetta. Ragazzi, io vi devo fare una sorpresa, questo io non c'entro, ve la fa lei. Ci sei in linea? Pronto? Sì, pronto. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao Lucia, sono Marica. Ciao. Sorpresa. Surprise. Ciao, ma quante carrambate stasera, Agostino. Hai visto? Non c'entro. No, questa no. Okay. Questa non c'entro. Ciao Marica. Ciao, allora, vi sto ascoltando. Allora, com'è? Bella, allora ti è passata la paura iniziale? Dai. Vabbè, un po' d'emozione tienila comunque, perché... Almeno così ce la trasmetti un po', dai. Dai, spero di averlo fatto in 2 ore circa di assolutamente, di sei sempre carichissima, carica al massimo. Sì, grazie. Così grazie. Ti voglio, così ti voglio. Sei dai. Sempre carina. Comunque state facendo veramente una bellissima cosa, piace moltissimo. Grazie. Grazie. E sono contenta che vi abbiano invitato perché è una cosa molto molto carina, mi sta piacendo molto e devo dire che è proprio una bella occasione, insomma. Ci hanno pagato, sai, per venire qui, eh? Io ho aperto un leasing, però posso, al termine del leasing posso decidere se cambiare DJ alla fine, come con l'auto. Va bene, ascoltami, va bene, dai. Dai, facci qualche confidenza su loro due, qualche aneddoto ce l'hai da raccontarci? Ma guarda, sinceramente Daniele non lo conosco da tantissimo tempo, perché sono andata una volta a sentirli in un locale e mi sono piaciuti molto, per cui quando Lucia mi ha detto che ci sarebbe stata questa cosa, ho detto va bene, assolutamente devo esserci, devo ascoltarli di nuovo. Aneddoti non me ne vengono in mente, cavoli, se mi fossi preparata. Non hai studiato, Marica, non hai studiato. Ritorna a settembre, dai. Va bene, allora a settembre li rinvitate, ovviamente li ripagate nuovamente. Sì, certo. Bissate il tutto. Allora, Marcello, domani mattina devo lavare 10 auto per pagare il leasing, cioè, così, eh. Cosa? Domani mattina devo lavare 10 auto io per guadagnare dei soldi per pagare i DJ qua, eh? È un macello, eh? Marica, comunque accettano donazioni se vuoi, eh? Ah sì? E beh, lanciamo la campagna, 1 euro per un DJ, sì. Mi sa che devo andare anch'io a fare la colletta a questo punto. Va benissimo, cosa ci aspetta ancora di bello? Ma ancora altri 2 o 3 brani, dai, gli ultimi, e poi chiudiamo questa come fosse un escalation, diciamo, sì, una scalinata proprio. Come fosse una scalinata quasi. Stiamo facendo una serata bellissima, Marica, c'è delle emozioni fortissime, non so se l'hai sentita fino all'inizio, ma sono di una bravura, a parte gli scherzi, sono di una bravura unica. Io Daniele lo conoscevo da un bel po', e già, era già venuto qui a trovarci con Eva Simontacchi e poi con Sara Soul. E poi quando gli abbiamo proposto questa serata, questa sera, visto che è agosto, una serata un po' strana, un po' particolare, un po' lunga, e hanno ben accettato subito, ovviamente, insomma, e quindi sono ben felice, siamo anzi ben felici di averli qui, e ci hanno regalato momenti esaltanti, veramente, insomma. Veramente, cioè, sono molto molto contenta, io mi è piaciuta moltissimo l'iniziativa e loro sono, vabbè, che dire, bravi. Grazie, molto Mari. Bravi. Lucia è fantastica, io gliel'ho sempre detto. Lei è una mia fan, diciamo, ogni volta che ci vediamo. Mamma, la tua voce. Infatti, anche se noi abbiamo appunto fatto qualcosina, va bene, insieme, ma così. Sei una cantante anche tu? Non a livelli della Lucia, ecco. Sì. Nel senso che abbiamo fatto un po' di jazz insieme. Oh. Quindi... Abbiamo fatto dei corsi insieme. Esatto. Quindi... Per cui... E poi mi documenterò dalla Lucia allora di te, va bene? Su di me non c'è niente di interessante da dire, per cui guarda. Beh, innanzitutto c'è la tua simpatia. Sì, quello senz'altro, perché è simpaticissima. Vero? Beh, ci facciamo delle mega chiacchierate fino a notte fonda, sì, con poi cappuccino e brioche. L'ultima volta non l'abbiamo fatto, però, eh. È vero, il cappuccino alle brioche alle 4 del mattino. Perché ci troviamo così bene a parlare, cioè non ci rendiamo conto del tempo che passa, allora veramente, facciamo l'alba e lì a quel punto scatta la brioche col cappuccino. Esatto. Va bene, che dire, grazie di questo, lo diranno loro, insomma, fateli voi i ringraziamenti, perché... Grazie, grazie mille. Io davvero non c'entro niente, davvero, giuro. No, io ringrazio loro per avermi dato la possibilità, perché ho detto voglio fare una sorpresa, perché ci tengo, cioè veramente... Mi sta piacendo moltissimo e sto passando una piacevolissima serata, per cui devo dire che io devo ringraziare voi, ecco, anche per avermi dato la possibilità di aver chiamato, e quindi... Ascolta, e del vecchietto cosa ne pensi? Ma no, il vecchietto, ma dai. Ma Agostino, cioè dai, perché devi parlare male di me? Non ho capito, scusami. Perché vecchietto? Poi... Vecchietto nel senso che ha una cultura musicale profondissima, vecchia, da tanto tempo, datata. Quindi ti sta facendo un complimento. Va bene, certo. Allora... La ringrazio. Parlavi di Maurizio. Chiamiamolo allora con il suo nome. Maurizio. Hai ragione, ma sai, Agostino è sempre così, scherzoso, scherza sempre lui. Ma l'esperienza dove la metti, quindi... cioè, abbiamo, non è da tutti. Siamo cresciuti a pane e musica, esatto, e radio. Più che esperienza, questa sera è stata emozione, questo che conta, secondo certo, me. Certo. E continuo, ho visto solo la scaletta di quello, ho visto, e ho già capito la tutto. La scaletta è proprio la scaletta, ho visto la scaletta, sì, ho visto la scaletta. Lui sbircia con gli occhialini così, vediamo. Prendi un paravento. Ma lui sbircia la scaletta e... Dimmi. Lui sbircia la scaletta e poi dispensa perle di saggezza. Esatto, sì, sì. Beh, ma lui è un esperto, sei un grande esperto. Sì, però siamo, cioè, il bello di queste trasmissioni è che c'è partecipazione e c'è amore di far sentire delle cose anche non conosciute, in una certa maniera, questo è l'importante secondo me, al di là di essere uno più o meno esperto. L'importante è la partecipazione, la voglia di suonare e di sentire, quello che conta. Certo. Va bene, Marika, va bene, grazie a tutti voi. Ciao, grazie. Marika, un bacione. Ciao, un bacione anche a te, ci sentiamo. Ciao, okay. ciao, buona continuazione. Grazie, allora. Stai lì e non ti muovere. No, assolutamente. Ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao, un bacio, ciao. Allora, io davvero, ve lo giuro, io non c'entro niente stavolta. Le altre due sì, ma questa no. Mi ha fatto molto adesso piacere. C'entrerai per forza, vedrai. Perché dici? Chi lo sa. Cosa ci fai emozionare? In una versione riveduta e corretta, presa un po' presa. Parla da... vicino al microfono. Grazie. Allontana il microfono perché sennò poi innesca con le cuffie. Sto facendo il rocchettaro anche con le cuffie. Dicevi? In una versione riveduta e corretta, presa un po' da Mary J. Blige, riadattata in tonalità per la voce di Lucia. Vabbè, beccati questa. Ah, bene, me la becco. There's a lady who's sure all the glitter is gone, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With the words, she can get what she came for. Ooh. And she's buying the stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to be named. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all the thoughts are misgiving. It makes me wonder. Ooh. If there's a bustle in your head, grow to be alone now. It's just a sprinkling for the May Queen. If there are two beds you can go by, but in the long run, there's still the time to change. The road you're on, it makes me wonder. Your head is humming and it won't go, in case you don't know, the pipe is calling you to join him. Wonder. a lady we all know, who shines white like wants to show how everything seems to go. And if you listen very hard, the tune will come to your list. Well, one and one is all, to be a rock and not to roll. She's buying the stairway to heaven. Fantastico. Mi avete lasciato senza parole. Questa... Io penso al lavoro mostruoso che hai fatto e che hai fatto con Lucia per riarrangiare un pezzo già di per suo molto complicato. Hai fatto un lavoro strepitoso. Secondo me. Grazie. Veramente una cosa bellissima. Senti, beviti quel goccio d'acqua, Lucia, e poi mi rifai l'intro, per favore. La prima, quella lenta, lentissima, con quella voce. È troppo bella, è da pelle d'oca, veramente. Oh, grazie. There's a lady who's sure all the glitter is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with the words she can get what she came for. She's buying the stairway to heaven. Fantastico. Fantastica, fantastica, fantastica. E ancora fantastica. Sì, le lacrime di noi vecchietti sono trasformate in emozioni. E c'è poco da fare. Cosa, grazie. Quando grazie. Una cosa rimane dentro, rimarrà sempre dentro. E voi avete fatto una versione bellissima, difficile, ripeto, perché la versione che avete fatto è piuttosto complessa, complicata, però avete dato l'anima, e questo era importante, secondo me. Siamo molto contenti. Grazie, è stato un bel lavoro, cioè decisamente tosto, ma veramente ha dato i suoi frutti, sicuramente. Grazie. Credo sia giusto farvi anche un po' di pubblicità, perché non abbiamo mai parlato dei vostri, come dire, contatti, la possibilità di contattarvi, di chiedervi di andare a suonare, di fare qualche concerto. Sì, certo, siti, vabbè, eccetera, la pagina Facebook e MySpace, MySpace non è aggiornatissimo, però vabbè, ci sono due brani, Besame e Got My Mojo, che faremo adesso, l'ultimo pezzo di Muddy Waters, che faremo in piedi. Faremo i piedi, bene, ok, per concludere bene un concerto, è giusto stare in piedi. E niente, vabbè, poi c'è myspace.com/fatboyguitar, fra un po' sarà attivo danielebonadei.com, è già attivo ma sto facendo casino, quindi fra un po' ci sarà danielebonadei.com più seriamente, poi se veniteci a trovare su Facebook. Benissimo, e quindi possono contattarvi per fare qualche live, qualche concerto, insomma. Sicuramente, noi siamo sempre lì. Magari vi rivedremo qui a Padova in qualche concerto. Molto volentieri. Se ci invitate, volentieri. No, ma non qui in radio, parlo anche in qualche... Sì, sicuramente. Beh, magari si può invitateci fare... anche in radio, vabbè, certo, tanto ormai certo. Leasing è aperto, quindi possiamo tranquillamente. Va bene, allora, come siete messi voi con le canzoni? Siamo sul finale? Beh, siamo sul finale, diciamo. Vabbè, facciamo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo in piedi. Che sono due, di Muddy Waters, sì. Racconta un po' tu, Dani. Per un maestro è giusto che sono in piedi. Due comunque, i pezzi. E anche Maurizio. Sono due i pezzi? Sì, perché prima fate la finale con Muddy Waters. Diciamo. Certo. E poi ci colleghi continuamente quello di Brian May di nuovo. Ah, va bene. Ah, ok. Sarà interessante collegarlo, va bene allora. Va bene. Muddy Waters, va bene, sì, capostipite del blues, un genio, Lee Morganfield, al secolo. Muddy Waters per via delle acque fangose del Mississippi. La cosa interessante è che dalle assi della sua capanna è stata ricavata una chitarra di proprietà di Billy Gibbons. Questo non lo sapevo. Top, una chitarra, vai via, una collezione di chitarre Billy Gibbons che lasciamo perdere. Cioè. Ho comprato di recente il libro che intitola Rock and Roll Gearhead, che ha dentro delle cose, sia le sue auto che le sue chitarre, quella famosa ricoperta di pelo, meraviglioso. Ha le chiavette con del pelo di pecora sistemato da un salone di bellezza, pettinato, delle cose pazzesche. Incredibile. Muddy Waters con questo Got My Mojo Working. Il mojo è il fascino, il sex appeal, il savoir faire che ti permette di bere champagne appoggiato a una nuvola mentre sotto di te c'è una tromba d'aria. Mamma questo mia è il questo è il mojo. E c'è, il brano dice: il mio mojo lavora ma su di te non ha effetto. E vabbè, pazienza. Però nel frattempo lui ha tenuto a battesimo chitarristi tipo Bob Margolin, che sembra veneto ma è americano, Bob Margolin, un grandissimo chitarrista, anche un grandissimo fotografo, devo dire, e Jerry Portnoy, suo armonicista, che è stato poi armonicista di Eric Clapton, giusto per dirne certo uno, insomma, e poi Muddy Waters è uno dei papà. Sì. È ovviamente uno dei papà, però permettetemi adesso di indossare la chitarra in piedi, scusate. Okay. No, ma intanto noi dobbiamo salutarvi, ovviamente, perché questa è la canzone finale, giusto? Sì, sì, sì, l'ultimo e poi pezzo. Collegate direttamente, senza entrare in studio, la canzone di Brian May. Allora Maurizio, abbiamo passato sì, quasi tre ore bellissimo, in loro compagnia. Esattamente, è stata una cosa bellissima, emozionante per noi e spero anche per gli ascoltatori, sicuramente anche per gli ascoltatori. Certo. E anche per noi, perché anche comunque per voi, cantare e suonare è sempre un'emozione. È un'emozione forte. Bene, un ringraziamento di cuore da parte mia ovviamente per aver accettato il mio invito, ma soprattutto da Blu Radio Veneto che vi è grata di essere venuta. Grazie a voi, ci mancherebbe, grazie. Un bacio a te Lucia, un abbraccio a Daniele. Grazie, grazie Agostino, grazie a voi. E per quanto mi riguarda io vi do l'appuntamento la settimana prossima con Mr. X, come che, perché non si sa ancora. Sì, con Mr. X esattamente, quindi o mercoledì o giovedì, beh sicuramente due appuntamenti sì, avrai. Uno è solamente mio. Ci solamente sono, tu, ti abbiamo musica, concesso. Sì. La mia musica, la mia musica, quella che amo io. E quindi vi do l'appuntamento quella serata proprio per ascoltare la musica soft, quella che dà emozione, quella che insomma quella che piace a me. E poi l'altra invece sarà dedicata a un live che vedremo. Sì, vedremo come riuscire a sistemare le cose. Un grazie ancora a voi, buon proseguimento all'ascolto dei programmi. Grazie, grazie a tutti. Dei programmi di Blu Radio Veneto che continuano poi sempre con i nostri programmi. Poi ci sarà anche il tuo programma. Sì, verso l'una ci saranno sull'acustico, che è un programma un po' particolare. Praticamente non sono presente, sono dei pezzi registrati, scelti da me senza nessuna pressione discografica, a mio piacimento. Oh. Quello gusto. Che è una, proprio, è una caratteristica di questo programma. Bene, buona serata, buon proseguimento, buonanotte. Grazie Agostino, grazie Maurizio. Grazie, grazie a voi. Grazie. E ci lasciamo con Muddy Waters e con Brian May, versione femminile però. Ok. Prego, ciao. Work on you. Got my mojo working, buddy. Just won't work on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do. I'm going down to his island, gonna get me mojo hand. I'm going down to his end and gonna get me mojo hand. I'm gonna have you all dreaming right in at my command. Got my mojo working, got my mojo working, got my mojo working, got my mojo working. I wanna love you so bad till I don't know what to do. I got a gypsy woman and it's giving me advice. I got a gypsy woman and it's giving me advice. I got some red hot tips I got to keep nice. Got my mojo working, got my mojo working, yeah. Got my mojo working, got my mojo working. I wanna love you so bad till I don't know what to do. Yes, come on. Got a gypsy woman and it's giving me vibes. I got a gypsy woman and it's giving me vibes. I got some red hot tips I got to keep me nice. Got my mojo working, got my mojo working, got my mojo working, got my mojo working. I wanna love you so bad till I don't know what to do. I wanna love you so bad till I don't know what to do. Just the pieces of the man I used to be. Too many bead of tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what struggle it would be. In my tangled state of mind, and I've been looking back to find when I went wrong. Too much love will kill you if we can't make up your mind. Torn between the lover and the love you left behind. You had a fall disaster, cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. I'm just a shadow of the man I used to be, and it seems like there's nowhere on this for me. I used to bring you sunshine, now all I ever do is bring you down. How would it be if we're standing in my shoes? Can't you see that's impossible to choose? No, there's no making sense of it. Everywhere I go, I'm bound to lose. Yeah. Too much love will kill you. Just assurance, not at all. And drain the power that's in you. Make you bleed and scream and crawl. The pain will make make you crazy. You're the victim of your crime. Too much love will kill you every time. Grazie, grazie. Di cuore, grazie. Da Blu Radio Veneto. Grazie a voi. Grazie. Grazie.